scende, che è il cognato di Massimo Pirivicchio. Ci mancherebbe, deve esserne molto pieno, mio padre c'ha un nome che che poi lo dovuto mettere al primo figlio, mio padre si chiama Ottavio, e quindi il primo che ha avuto gli ho messo Ottavio. Il padre va a dire, ma non fa un figlio, no, è tu il primo, perché papà si chiama così, e l'altro, il piccolo, c'ha 16 anni, si chiama Claudio, lo riprendi e vedi dare. Sì, me l'avevi già detto, e hai un figlio che si chiama Claudio, e anche quello è un bel nome. Ok, Luca, allora, sei impegnato all'RPG, Sandro, se ti sia passato il QRM puoi riprendere, altrimenti riprende Gigino, vai. È positivo, anche io, secondo nome mio è Paolo, e Paolo è secondo nome mio, capito, è Paolo. Il primo figlio si chiama Pierpaolo perché Pietro si chiamava mio padre e ho fatto uno e l'altro, tutti e due, capito? Pierpaolo e Paolo, non è il nome di mio padre, Pierpaolo è il primo figlio. Beh, quindi anche tu hai tenuto alta la bandiera, no? Positivo, come secondo nome ce l'ho Paolo io. No, con Battianino ho fatto il militare, ma anche altri di Porto Torres, figli Vittorio Manno. Quello di Vittorio Manno è di questa classe più o meno. Sì, Vittorio Manno, Vittorio Pintado, tutti di quella classe siamo, Tore Pintado, Antonello, tutti di quella classe lì siamo. Abitavamo tutti lì, via Cavour, via Libio, via Torre Sacchi, via Petronia, tutti lì eravamo. Qualcuno scendeva da su da via Principe di Piemonte, dai, dai casi che vedono lì sopra. Sono nato io, finiva proprio davanti alla casa di Angelo, Angelo, Oreste, messo per 23 canali e quindi si chiamavano T1, T2, T3, T4, sino ad arrivare a T9 con tutti i mezzi. E con Angelo io ho dato l'esame praticamente per la patente C, capito? Per la patente C mi aveva presentato lui come privatista e poi invece non ho fatto niente perché avevo venduto il camion Gianni. Abbiamo la stessa età e l'anno scorso ho fatto la linea della regione per lui a Sentino col Pulma e siamo grandi amici con Angelo anche qui molte volte gli ho fatto prendere anche l'appalto delle scuole a Pulma perché io qua non c'avevo la licenza, mi ha fatto la prestanome, una persona veramente corretta e due di quelle radio venne date a me, i Pace 123 erano quelli che erano piazzati sulle macchine taxi e due mi li ha dati a me. Sì, ma c'aveva anche il Boni sui canali che poi, siccome c'era questa cosa che il Boni sui canali, se ti ricordi, aveva il parlascolto dal microfono, si rompeva le scatole. C'era anche il figlio, no? il fratello che lavora all'Azt, capito, Massimo. E quindi niente, si era rotto le scatole il padre e aveva comprato questi Pace 123, non so se c'è il 123 o il 123A tu che ti ha dato, e li avevo comprati io la Panzer, ti ricordi la Panzer in via Civitavecchia, Novella, via Torre, se vuoi via Tempio. Via Galileo Galilei è morto, Pier Giorgio Pinna. Il 123, sono 123, perché io ho un 123. Allora, ti devo dire che questi paracchini, uno internamente e elettronicamente è diverso dall'altro, però non è lo stesso come estetica e precisa, solo che uno all'interno cambia, non so se ti ricordi. Sì, mi pare avessero l'11 alfa, adesso non me lo ricordo, l'11 alfa, io sull'11 alfa avevo messo il quarto del 40° canale, che allora avevo tolto dal tenco che mi si era bruciato, avevo il tenco 46T, che era 46 canali, e mi si era bruciato, avevo tolto alcuni quarti e nell'11 alfa avevo messo il 40 canali, il quarto del 40° canale. E quindi era una schioppettata quella radio, e funzionava, ma guarda, io eravamo attaccati, ma prendevo tanti di quei colpi, ma tanti di quei colpi quando la moglie chiamava Angelo o al marito, a Oreste, che erano tutti assieme, poi Oreste ha seguito e sta seguendo i taxi, mentre Angelo ha seguito la linea del padre in Pulma. Ma prendevo tanti di quei colpi, Gianni, perché eravamo talmente vicini, allora io usavo una Standaster, che era una di quelle antenne che sembrava un ragno, simile a una Grand Prix, però c'aveva le aste che manteneva i radiali lunghissimi, e prendevo tanti di quei colpi perché abitavo proprio in mezzo alla via, proprio di fronte a lui, e lui aveva una zona micidiale che era lì al campo sportivo, ma colpi che non prendevo quando la madre chiamava il marito con le macchine, guarda, dovevo stare zitto perché poi c'avevo Gavino Michele a fianco a me che è morto anche lui, Gavino Carciofo, e quindi eravamo in mezzo, io con la KB23 e lui invece con l'altra Fayette, quella SSB50 se ti ricordi, e quindi ci ammazzava noi, ma vabbè, erano bei tempi, si poteva fare un po' di tutto, ma comunque. No, il padre è ancora vivo, e lo sai, sì, non è mica morto il padre di Angelo, siamo visti da poco in piazza. Mi ha fatto salire lui, ma si vede che avevo anche qualche direttiva, perché ho visto il motore della direttiva, quello non gliel'ho chiesto, e ho visto anche che ci avevano anche un lineare che io ce l'ho preciso, non funziona, uno spirit a 100 watt. Comunque quello che lavora all'altro non si chiama Massimo, ma si chiama Alessandro. Io mi sto confondendo col cugino, hai ragione, Alessandro, sì che lavora all'Azt. Alessandro, non mi ricordo quanti anni abbia, ma comunque non penso che abbia più di 40 anni, Alessandro. Sembra che sia il piccolo, non lo so esattamente, comunque Angelo del 59, lui è nato in aprile, io sono nato in ottobre, non ne avevano parecchi perché me l'ha detto, e gli è rimasto, mi ha detto Alessandro, che c'ha ancora un baracchino valvolare, un coso a CD, che è un ARSA, mi sembra tutto 46 canali già. Mi ha detto già, c'è l'altro, quello ce l'ho anch'io, ho detto ma non funziona. E poi altre cose avrei, capito, ma a me mi interessavano per in pace, capito, qua, perché ero molto affascinato, e che con Panther ci conoscevamo, guarda, quando se n'è andato poi è morto, mi è dispiaciuto, via Galileo Galilei, ti ricordi, Radio Telecomunicazioni. Sì, me lo ricordo perfettamente, infatti non ricordavo la via, comunque via Tempio, via Torre, c'era la parola di via Galileo Galilei, e quindi mi ricordo, sì, ho comprato un sacco di roba io da Panzer, come baracchinetti, insomma, roba minuta, dai. Poi ho conosciuto Mario Notari e da Mario ho iniziato a prendere il primo keyboard, che è stato il 430. Niente, sono andato avanti così, ma ti parlo degli anni 80, quindi tutto regolare. Ok, avanti Gigino, cambio, non ti bere il mio vino senza l'aranciata. E poi c'è stato forse Sandro Bottoli che ha chiesto il permesso, forse deve chiudere o qualcosa. Niente, adesso mi ha rilanciato, io approfitto a salutarmi che me ne vado su a casa, sai dove sono messo io. Me ne vado su a casa che domani devo lavorare, capito? E, salutando Capidue, salutando non so se c'è ancora finito, tutti quelli che ci sono in ascolto, dai. E rilanciamo a Sandro che voleva entrare, che forse mi vuole salutare anche lui. Dai, io saluto a tutti che non ne devo lavorare, dai, e chiudo le trasmissioni. Riprendi tu Claudio e fai entrare a Sandro, che sicuramente lui sta chiamando. Sì, sì, vai Sandro, vai. Ne approfitto giusto per salutarvi tutti quanti circolarmente e sentiamo tutte alle prossime. Sandro, ti do il compito di svegliare a Luca e a Tore, tienili a bada e svegliali e se c'è da dare una mano per montare l'antenna sappiate che io sono sempre disponibile, non c'è problema. Adesso vediamo, cerchiamo un attimino di capire come la situazione com'è, vediamo un attimino di mettergli lassù questa antenna Pasqualini, perché lui con la 27 rinasce minimo di 10 anni. Ok, saluto tutti, super salutoni a tutta la ruota, Sandro da Paolo Torres. Sandro, un abbraccio grande, mi raccomando, che un impegno ci dobbiamo prendere tutti e due assieme. Per tutti lì a Porto Torres bisogna tirare su le antenne, ok? Un abbraccio grande, grazie della compagnia, quando vuoi siamo qua, se non ci sono e tu sei in radio che magari io ce l'ho accesa ma non sto modulando, fammi uno squillo, io capisco che tu sei sul 10 e passo immediatamente a farti compagnia. Ciao Sandro, buon fine domenica, buon tutto e grazie della compagnia, a presto. Ciao Sandro, riprendo io, dunque, saluta lì, tutta la ruota di Porto Torre. Ciao Luca, un abbraccio anche a te, altra chi s'antenna, buone l'antenna, la matta che te ne vale a dimiglia a colpi di roggio. Ciao Luca, ciao, dai che ce la facciamo, forza, avanti Capri. Ok, saluto a Sandro, Luca e Giampaolo, tutti gli amici di Porto Torres, come ha detto Claudio, datemi da fare. E saluto anche a Gigi Vulcano che sta passando in QRT mi sembra. Però ho sentito una persona che chiamava Sparviero, avanti chi chiama Sparviero? Io ho sentito uno che ha chiamato Sparviero, non lo so. Se vuole venire avanti, adesso io rilancio a Claudio di nuovo. Avanti Claudio. Ehi, saluto anche a Gigi, ciao Gigi, anche per te un saluto grande, grazie alla compagnia di tutto e noi già ci vediamo in settimana. Se c'è qualcosa che sia a Cagliari, che passi di là, che hai 5 minuti interessante, non stare lì a perdere tempo, fammi un colpo di citofono e qualche altra cosettina per i baracchini mi serve. No, è lo che lo sento l'altro piano di Buto ciò che romba. Vediamo se tu ascolti lo Sparviero originale qua con un baracchinetto della mutua. Pinocchietto il Moro dall'altopiano di Budusò, cambia. apparato, ma sì, sentivo la voce, sono ancora più potente, sono usando l'Iran, e mi arrivi, guarda, sparatissimo, sparatissimo, immagino che problemi di trazione, come ti ho detto ieri, non ne hai. Comunque c'è anche l'amico Benito lì da Sassari, mi sembra, e non lo so se lo ascolti, però voglio a rilanciarlo, attenzione Benito, hai ascoltato produttore? No, negativo, non riesco a ascoltarlo. Comunque salutamelo. Ok, ti saluto amico Benito, tanto non riesco a ascoltarti di luce. Allora, cosa si dice lì a Buduso? Ok, altrettanto ti dico qui, ho messo il naso fuori poco fa e già si vede, si vede. Ok, cari, prendi. Ah, va bene, l'acqua già va bene. Sono a Sassari, no, deve piovere anche a Buduso e dintorni, caro Pinuccetto, hai attaccato la lavatrice, stai arrivando qua con i panni tutti stirati, Pinuccetto, con i panni tutti stirati, io qua con un baracchinetto della mutua, vedo che mi ascolti lo stesso, per buttarcelo Pinuccetto, allora lo lascio, no niente, ti ascolto bene, ti ascolto, l'importante anche gli amici ascoltando, diciamo, mi porto pure tranne Luca e Giampaolo che ci hanno mantenuto la niente, però miglioreranno in seguito, così ascolterò anche a loro, diciamo, come si deve, ma c'è anche l'amico Uranio, io stasera ci stiamo ubriacando la frequenza. Uranio, ci sei ancora? Ok, ti devi migliorare allora, devi migliorare parecchio, perché siete in alto, almeno lì dovresti arrivare, non lo so. E rilancio il tuo parola a Sparviero, vai. Un attimo, qua. Eia. Eia, dai, che mi stanno chiamando. Salutoni circolari a tutti, mi ha fatto piacere avere un'ottima ruota stasera con tanta gente e con tutti i nuovi iscritti. Vi saluto a tutti e buonasera da parte mia. Sta modulando Uranio, Gianni? Sì, stava modulando, però diciamo che non lo ascoltava né Buduso né nessuno, quindi lui c'è, però non lo ascoltano quando rilancia, io gli ho detto di dare una, diciamo, controllata, perché dovrebbe cambiare il cavo l'altro giorno, metterla tutto bene che da oggi lo dovrebbe, diciamo, arrivare alla grande. Mi sembra però che Benito stia facendo QVT e ci ha salutato, se lui, io lo saluto cordialmente, lo saluto, è stato un piacere averlo sentito e auguro di sentirlo anche in seguito. Benito, ti rimetto il cambio, farei girare per Claudio dopo. Gappa, salutiamo di nuovo, circolare a tutti, ripeto, è stata una buona modulata questa sera, tanta gente, c'è stata una rossa e mi ha fatto molto piacere. Salutiamo di nuovo a tutti. Sì, riprendo io, sì, no, io ho detto se parlava Gianni, ho chiesto appunto a Gianni se parlava Uranio, ma non sono modulato per non sono modulare per salutarti bene. Sì, ma pian pianino sto spargendo un po' la voce ai vecchi amici. Qualcuno magari pensa che la radio vada a morire, ma non è così. Non è così. Continuo a trascinare quel poco che mi resta di passione. Ciao Beni, il piacere è tutto mio, grazie della compagnia, di tutto, quando vuoi siamo qua. Siamo qua adesso, vedrò mercoledì di fare un salto a Porto Torres e a Giampaolo, capire un po' com'è la situazione, buttarmi veramente in mezzo, perché questa cosa che lui non abbia l'antenna, non le fanno montare l'antenna, a me non piace assolutamente, quindi metterò tutta la mia voglia e la mia capacità, le mie conoscenze, le mie cose, per far sì che questo scempio venga a finire, perché non è giusto. Giampaolo deve modulare, ha bisogno di un'antenna sul tetto e così basta, non aggiungo altro, quindi vedrò di fare il mio meglio, bene, ti farò sapere, adesso sentirò anche Sandro mercoledì che ci vediamo a Paolo Torres, di Sassari, che siamo colleghi radioamatori, e mi ha detto che non ci devono essere problemi, non c'è nessun problema, che se le carte sono in regola l'antenna deve essere messa al suo posto, quindi farò di tutto e di meglio. Va bene, ciao Benino, un abbraccio grande e ci sentiamo alle prossimine. Claudio! Ma guarda, Daniele ci sono qua. Ehi Daniele, beh. Guarda lei, so com'è. Bene, bene, sempre la modulazione col microfono normale, ma le messe 60 ha venduto, direi. Ma Rosa, non sono a casa. Ah, non sei a casa, ho capito. Dove sei, in campagna? Ehi, in campagnetta, dimmi quando arrivo. E tu mi devi sentire, sto rispondendo. No, è abbondante Radio 5, io sto usando la faietta KB23, portando più 3 al tavolo. Però un segnale che mi dà questa KB23 è 9, quindi sicuramente col 440 mi arrivi molto, molto più forte, Daniele. Sì, ma tu, quasi in quasi, hai capito dove l'ho messo? Ehi, ho capito, ma hai detto come fa giù? Ehi, giù, in macchina! Ah, in macchina l'hai rimesso, ma nell'appunto? No, è a tipo. Ah, e io oggi ti andavo bene, dove sei, sotto casa tua? No. Sotto casa di Mingo Mongo. Cosa? Sotto casa di Franco. No, era quella campestre. Ah, quella campestre. Sì, sotto casa di Franco già va bene il segnale. Io ho un po' coperto lì, a mano che non c'è l'antenna sopra. Ma se sia la colonia già va bene lo stesso. Va benissimo, alla grande, Daniele. Andiamo là, sentiamo dopo come proseguo. Non ti dico nulla, accendi la radio a casa, vengo e ti prendo a colpi di picco. Ehi, sono la radio, accende. Vabbè, accendi quelle che vuoi, Daniele, accendi quelle che vuoi. Non me ne fotti nulla di che ti vinci. Te le tieni come ricordo, a me interessa che accendi quello e boom. In modo che ti fai sentire, ti ho detto, è entrato anche Franco oggi. Ma detto sarebbe entrato stasera, ma sicuramente è impegnato. Quindi fatevi sentire che il tempo delle mele sta arrivando. Allora, va, se ci sentiamo dopo qua. Eia, io sono sempre qua sul canale 10, non c'è nessun problema. Ciao Daniele, un abbraccio, ci sentiamo. Avanti Capri. Ma sì, adesso ti faccio un interrogativo. Attivo. Che cosa? Non le senti il microfono. Era nero, confermi tra. L'SBA è nero, originale, c'è la targhettina celeste sopra il piantone della capsula. I due BTT e LOC sono di colore argento, quello è la sua cassa originale. Perché il tuo che colore è? Io l'avevo ritinto nero perché Nazzanino me l'aveva fatto, era carta da zucchero, ma non era così. Infatti già lo sento giusto perché poi ho preso anche il vecchio Defiant della ECPE del 73 ed è già in nero. Allora, plus, totalchi e poi c'è il datalock che sono colore alluminio, poi c'è la manottolina del volume, c'è lo zero rosso, confermi? Esatto, si conferma. La ghiera del portacapsula, anche quella è una ghiera argentata del colore del BTT. Non è cromato, confermi, perché io pensavo che l'avevano cominciato. Non è cromato, poi c'è il coso, la griglia nera e c'è scritto SBA in azzurro. Sì, sì, SBA in azzurro. No, è cromata la ghiera, Gianni, è cromata. Un attimino che mi chiama, è cromata la ghiera, Gianni. E non è cromata, da allora l'hanno tinta loro, L'hanno tinta, dopo ho saltato il cromo, allora... Quando va mio figlio in continente la mandò a cromare. Guarda che c'è la bomboletta, c'è, la stanno vendendo, l'ho comprata anch'io, ho cromato una ghiera che è uscito uno spettacolo, Gianni, uno spettacolo. Cioè, guarda, se vieni a Sassari, c'è via Montello, da Gianni, si chiama come te, ha di tutto e di più. E di più, infatti devo comprare la bomboletta, lo dico a Luca, c'ha le bombolette proprio della vernice che praticamente rimane cromata, io ho cromato un pannellino piccolino della marmita della moto, ma è uscito uno spettacolo come nuova, perché aveva un graffietto, l'ho levigata piano piano con la tela, quella fine, e poi gli ho dato una passettina di questa vernice cromata. di Grove, non asciugava mai qua questa roba, eh. Allora, per fare quel lavoro lì ci vuole una grappante, però siccome è una ghiera piccolissima, la metti in terra sopra il giornale ed è una passatina leggera leggera, perché quella pellice che sta avendo lui è acrilica, quindi asciuga subito, deve dare il tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, però asciuga, non la devi toccare, perché se la tocchi ti fa la macchia, e poi devi spostarla leggermente da lontano, non ti faccia le colature, perché la pellice molto molto molto fine, capito? Se vuoi che aggrappi un po' meglio, le dai una passatina di tela fine fine, di tela fine fine a quell'anello che poi devi cromare, in modo che agganci prima, capito? Perché per farlo bene ci vuole l'aggrappante, ma è un controsenso comprare anche l'aggrappante, devo dare leggero leggero come gli ho dato io, una ventina di minuti l'avevo messo su davanti della finestra, era una giornata di sole, è venuto, guarda, uno spettacolo, ma era un pezzettino quanto un microfono, è proprio un copri marmita per non bruciarti, quando affiancavi il piede sulla pedivella. Ed era venuta molto bene, infatti ho detto a Gianni, ma sei sicuro che la cosa funziona? Ho detto Claudio, prendila perché la sto vendendo, e nessuno mai si è lamentato, una vernice molto buona, è della Maxi Meyer. Io che allora la prenderò la bomboletta, la prenderò e niente, poi il trasparente non ci fa sopra, no? No, è già lucida Gianni, diventa già lucido, capito? Ma non quel lucido brutto, è un lucido proprio particolare per le cromature, E ti dico che viene veramente bene, alla fin fine è come il... hai visto la cromatura che c'ha il pomello dei canali, la KB23, no? Il pomellino piccolino, che sono tutti e tre cromati. Ecco, viene una cromatura così, leggera leggera, però non è lucida lucida, capito? È proprio la sua originale. Sì, ok, allora, forse è così, è questo colore, ma lo so, forse è cromato così, allora è giusto, perché è nuovo nuovo qui, Non è proprio, allora è così. Perché non vedo anche io per lucido questo, e sembra che non sia stato mai verdeggiato, invece il microfono l'avevano verdeggiato, fatta dal zucchero, che non era così, e io l'ho rifatto nero lucido come era, e ci sono da collegare i fili dentro, perché Nazzarino sicuramente ci ha messo le mani lui. Lo so già, non lo so, non mi voglio mettere in mezzo a questi discorsi, però i microfoni, credo che quel microfono gliel'abbiamo dato già così, Gianni, perché aveva chiesto anche a me se riuscivo a procurare lo schema, avevamo visto assieme come erano attaccati i miei, lui ci aveva provato, però alla fin fine non era così, quindi sicuramente non è questione di ricollegare i fili all'interno lì. Ci sono i fili spostati sulle piste, evidentemente quel microfono è stato adattato per qualche HF o per qualcosa del genere. E quindi era così, come io avevo dato uno Shure a Vittorio Giove, praticamente me l'aveva adattato per usare con la linea Drake, quindi aveva cambiato tutte le connessioni all'interno perché era puntale l'ingresso della linea Drake eccetera, però lo uso solo con quella e quindi non mi interessa, capito? Invece quel microfono era... non mi ricordo chi l'avesse dato a Natalino sinceramente, però non è colpa sua, gliel'avevamo fatto così con i fili tutti staccati, avevamo cercato, aveva chiesto anche a me per vedere un po' se riuscivo a metterlo a posto, ma non abbiamo mai procurato lo schema, io gli ho fatto vedere il mio aperto, però quando lui è andato a saldare i fili non risultava le posizioni giuste, quindi sicuramente c'è qualche altro problema, cioè. Diciamo che non ci ho messo mano, l'ho solo verniciato e l'ho lasciato da una parte, siccome c'era anche il mio amico attuale Gino Vattura che funzionava ed attaccato all'epoca sul contract, e quindi però Giovanni non l'ho più visto e niente, e l'ho lasciato lì, è bello, e se lo vedi nella vetrina me l'ho lasciato, poi adesso l'ho rifatto, poi stavo guardando, poi cercare nel più due che avevo all'epoca, lo stesso lì, era controllare, io le cose che le ho lasciate ferme, però me ne avevano regalato simile alta del più due, senza amplificazioni, nuovi di faccia, un altro modello. cassa precisi identici, sono colore alluminio, sono, però non sono amplificati, non so se li conosci. Sì, li conosco perfettamente. Io ne ho uno che è il DM30 della Iaeso, che è flessibile ma non ha circuito di preamplificazione. Lavora con le radio decametriche, lavora molto bene col processore inserito e le micchine al massimo. Però sono dei microfoni da tavolo che non hanno circuito di preamplificazione, erano fatti apposta. Sia il DM30, il DM60 della Iaeso, l'MD100, l'MD1B100, tutti i microfoni Iaeso che io ho, che però non sono preamplificati ma sono da tavolo, molto belli, che però lavorano con le radio decametriche, capito già. Ma Pinocchio dove fino ha fatto? Attenzione, Buduso, scusa della diciamo che abbiamo monopolizzato la radio un po', perché ogni tanto ci permettiamo di fare questi ping pong. Ci sei, Pinocchio? Io vabbè, Pinocchio già rimane poco, poi già rientra, si sposta, rientra, non è un problema. Ok, perché problemi per fare i collegamenti non ne ho, mi arrabbio benissimo a fare qualche riconnessione tra dei tablet, c'ho anche il libretto originale dell'epoca, ci sono tutte le connessioni, c'ho tutti gli schemi dei turner, c'ho anche quelli manuali, c'ho quello nero, non mi ricordo adesso, non l'MP2, c'ho l'MP2, l'MP2U, e poi uno nero che è bello pesante qua, sì, mi sembra che si chiami GM, bello e comunque. Quale? Quello della Sommer, che appunto stai dicendo? Quello lì o Cioè? Io sto parlando di Turner. La Turner ne hanno fatto, allora io c'ho il Turner normale, quello grigio, e poi c'ho quello cromato, che è il Turner Super Siderick. Super Siderick si chiama, che già dove c'è la capsula è cromata. Già c'ho i depriangia, no, ma io c'ho, questo c'è scritto, allora, questo che c'ho qui è, cosa ti posso dire, un colore, diciamo, non posso definire, un verde aro, non verde, claro, una cosa grigio, tendente al verde, dai, poi c'è scritto Turner in azzurro, c'è scritto Plus 3, c'ha il volume del potenziometro, il coso per bloccare la portante, e poi sotto c'ha la commutazione, la relè, commutazione elettronica e la batteria. Questo è il Turner Plus 3, poi c'ho quello più 2 che è carta da zucchero metallizzato, poi c'ho quei due nuovi di pacca che mi ha regalato questo amico mio di Cagliari, e Turner poi ce n'è uno che è in un piedistallo, che esce con un ingresso fino, non so se quello è dalla diamatore o da dove cavolo sia. Quello lì è quello che avevo io nella collezione, guarda, io di microfoni da tavolo ne avevo 60 di tutte le serie, che poi ho dato a un collezionista di Milano e mi sono tenuto praticamente il Turner più 3, i due Turner più 3 Super Siderick e l'altro normale, poi l'SBE e il Turner più 2, adesso ho acquistato l'Esadelta, che è un ottimo microfono, l'ha dato Luigi, e poi quello da Palmo, sempre della Turner, l'MP2, quello da Palmo, che uso con una vecchia linea che ho. Però gli altri li avevo dati tutti già, e quello lì che stai dicendo tu è quello che andava alimentato a 6 volts. Ok, allora, ho preso questa scatola, ci sono quelli manuali, allora questo quello nero si chiama, c'è il coso del pulsore dietro, allora si chiama M+3B, questo è il manuale, e poi c'ho altri due microfoni tale manuali, uno si chiama M+2U e poi uno si chiama GM+2. Sì, M+2U, quello lì è quello della Turner sempre. Quello con la retina bianca che è celeste, sì. Quello lì. Quello lì è sempre quello che c'ho io. Mentre quello 3 manuale lì io non ce l'ho. Forse l'ho avuto anni fa, ma non me lo ricordo già, non me lo ricordo. Comunque quello che ho io, perché il Turner più 3B non è un Turner originale, quello è stato fatto con il circuito del Turner più 3 originale, poi gli hanno messo questo Turner più 3B, che praticamente è stato fatto in Italia. Il Turner più 3 originale è quello grigio, che c'è tu e c'ho io, e poi avevano fatto il Turner più 3 Super Siderick, che è sempre l'originale, però dove c'è il piantone della capsula, quello è tutto cromato, ma cromato però, cromato con una cosa spettacolare, bellissimo, molto bello, ed è quello che sto usando adesso. Io sto usando il Super Siderick, il Turner più 3 Super Siderick, che è quello cromato. Avevo trovato la fiera di Genova io, e me l'hanno fatto pagare una vasca di dinar, 120 euro, l'ho preso al volo perché il valore suo è quello e perché è un signor microfono, e i risultati si vedono, non c'è Cristo. Mentre il più 2 e l'SBM erano rimasti nella vecchia serie che avevo io già. Cosettine così, ma avevano colpito queste cose, tutte a due lire. se magari quando vado riesco a procurarti questo microfono. Ho capito qual è, quello che c'aveva la rotellina sopra, sì. Io c'ho il catalogo, anche lo stavo studiando, del 1972-73 della Marcucci, che è tutto SPN, c'è il Trinidad, tutti gli apparecchi, console, tutti gli apparecchi dell'SPN. Io c'ho il cuore, però non funziona, c'ho il Catalina da primo e secondo, in verità però non ne funziona neanche uno, il Colomado riceve, però c'era era partito il coso. Come si chiama, il finale di trasmissione qua, e quello lì era una figata, Sì, vabbè, ma già, no, non mi voglio sminacciare con molti baracchini, capito? Ho tenuto quelli che praticamente mi avevano un po' affezionato, un Sears SSB50, che è favoloso, grandissimo, è più grande dell'MS200, è molto grande, veicolare, è una signora radio enorme, molto bella, americana. Ho tenuto quello, la KB me l'ha regalato Gigino, i dei due basi Nino Ite Midland, poi c'ho altre due o tre che sono praticamente in verniciatura, ce li ho giù in garage, sto verniciando i coperchi. Dicendo un'altra cosa, non mi ricordo quanto volevo dire, poi alla fine non li uso, mi rimangono lì in mezzo alla polvere, tocca sempre spostarli, fare, se tu vieni qua io ho una stanza enorme adesso e praticamente ho fatto fare tutto il falegname, tutto ordinato, quindi sto facendo una parte radio HF, l'altra base con tutti i microfoni per la CB, la radio della CB, ma sempre quelle 4-5 radio dove posso usarle, girarmi e usarle, con la commutazione delle antenne, quindi senza cavi in mezzo ai piedi, tutto. Capito? Un alimentatore della Proxer che ho comprato con un rilevatore da 80 ampere, quindi vanno alimentati lì, tutti sotto carretto unico e va bene così già. Altrimenti poi mi faccio la casa dei baracchini e no, tanto non li uso. Quello che mi piace molto è questo, perché è selettivo, c'è una bellissima ricezione, non prende colpi, va molto bene la KB23 già. Mettilo a posto perché va molto bene. Tranquillo, caro, mi ho portato l'Inuit CB294, che è come il giorno che me l'ha dato la tua anima di Costantino Farà, nuovo, tutto cromato, non c'ha un... non so che ci ho messo il tarne, stamattina gli avevi sentito, però il tarne non sta andando come si deve, però con questo microfono l'anno scorso l'ho usato, che l'ho usato adesso, però questo microfono l'ho intestato per il Midland, e poi in garage c'ho anche un Midland 23 canali con le bande laterali, che è da guardare, e c'è anche un Somerkand di quelli a 10 watt, col coperchio di legno, e capito, l'Europa, qui mi ho portato a casa, c'è il Contat, il Tokai, di Facce, il Poli ce l'ho, amico, di fronte, il Poli ha 6 canali che si sente dalla la voce alla parlare al microfono, nuovo di Zecca, tra. Pronto? Pronto, chi è? Iniziano a fare quel lavoro lì, ma e così vediamo un pochino, va bene. qua. Oh, e dove sei adesso? Sempre fermo qua, sino a domani. Ah, se lo dici vedete, Rosori. Allora, il fresco. niente, non ti ho più sentito. Domani non ho sentito Franco, l'altro giorno l'ho visto di sfuggita. Ero lì in via Pascoli, sono andato a prendermi caffè a Barilaria, dove era lì che parlava con un suo ex collega. Mi pare sia passato anche tu in macchina, non mi ricordo adesso. Volarci, non me lo ricordo adesso. Però mira, cioè, devo dire, fare un po' di compagnia, sennò guai, la faccia più oggi. No, niente, devi attaccare a casa, vabbè, conosci in macchina, è giusto che lo usi, perché voi state in giro, e quindi è giusto che lo usi anche in macchina, per carità, però adesso arriva il tempo brutto, quindi ci intaniamo a casa e ci fanno due chiacchiere. Guarda, noi eravamo in ruota stasera qua su 10, c'erano 10 persone, è entrata anche una bella ruota di poco torre, c'è qualcuno bassino, qualcuno più alto, però insomma sta iniziando a farsi sentire la gente. Ho sparso un po' la voce, quindi datti una sistemata, la radio già ce l'hai, la radio ce li hai, e quindi va bene. Ok, Capri, lo senti a Daniele in macchina? Sì, anche lo sento. Daniele, buonasera, qui la Capri 2 da Mulos, che ti super saluta e ti rimette il cambio se li vai ascoltando. A te ancora, Daniele. Ciao Capri, ben sentito. Ma sono di arrivato, avevo le coordinate, vai. Sono qua, li ho sentiti fuori di radio. Sì, io ti sento bene, non ho capito, mi ascolti male di radio, così? No, di radio è bene, il segnale è basso. Però li ho sentiti fuori, vai. Ok, perfetto, l'importante è sentirci. Adesso lì, sto pensando nella vetrina, là, me l'ho dimenticato, c'ho un guardian per Simpson valvolare da 10 watt, un SK, ti ricordi l'SK, là, a 23 canali da paramobile? L'SK io ce l'ho anche adesso, però anziché essere CB, ho l'SK 2000 che fa le VHF, un monomando VHF 25 watt. No, questo è tutta roba da 27, ma poi di roba radioamatoriale qui di fronte ciò. La catticola bassella, le scrape che il trasmettitore, e stavo cercando, come si chiama, il ricevitore preciso per fare la linea, e mi sembra che si chiama XX146, e non sono riuscito mai a trovarlo perché mi ero collegato anche su internet per avere una bella copia. Dunque c'ho lo 030 della IAESU come ricevitore e per le G100, e poi c'ho il B-banda della ICOM che fa 144, 430, e poi fa anche da, diciamo, da scanner, fa. E poi che ne ha più ne metta, qui ce l'ha la 78, quello piccolino, l'ho fatto a 400 canali, e quelli che ci sono, poi c'è un Sommer Campo 40 canali, e tutto cromato con le bande laterali, che già ne ho, quelli che ho qui, poi in garage ce ne sono tanti, però è sempre affare di roba cipigla. Infatti già, hai fatto solo roba CB, io della roba CB ti ripeto, ne ho lasciato ben poca, avevo dato tutto perché non tanto non mi interessavano, tenere lì per poi fare la fine, vedi che non vai a prenderne uno, cioè, ma oggi voglio provare un baracchino e non funziona, alla fine ti si rompono le scatole. Quindi ho fatto tutta roba amatoriale, la discraft, il ricevitore di quello, c'era un radioamatore di Tempio, c'era un radioamatore di Tempio, non so se lo ha, però ce l'ha, perché lui c'ha due linee complete, di cui una aveva il ricevitore in più, Raffaele di Tempio, trasmette molto in 80 metri, lo senti spesso a 3650, 3640, Raffaele di Tempio è un grandissimo radioamatore, anzianotto, credo un'ottantina d'anni, ma micidiale, proprio all'angolo con via Palau, micidiale, una cosa spaventosa. Grandissimo radioamatore, trasmette molto in 80 metri, grande radiotelegrafista, trasmette molto in telegrafia, e lui ha tutte linee Collins, ma dalla prima sino all'ultima, c'ha le linee Aliscraft, c'ha grandi radio, c'ha grandi radio, a me mi diede, e ce l'ho ancora, un ricevitore della Collins, che è intoccabile, poi c'ha delle radio americane, delle radio militari, c'ha delle cose pazzesche da vedere, Gianni, non baracchini, se ti offesa, ma baracchini sono baracchini, quelle sono radio decametriche che hanno un valore inestimabile, Gianni, veramente, una cosa pazzesca, io mi sono spaventato. Ha una camera piena, completamente piena, Collins, Aliscraft, le migliori case costruttrici al mondo di radio decametriche, lui lavora solo col valvolare, solo esclusivamente con le radio valvolare, ma è un mostro, nonostante abbia quell'età è un mostro, ha un amplificatore a mobile da 5 kW che è una cosa spaventosa e lavora solo con apparecchiature decametriche. Mio figlio, e qualche giorno che vado a tempo perché mio figlio ci va a suonare lì. Ok, no, niente, io ho anche il BC312 in garage, proprio di radio militare, però lo sai qua perché non mi sono mai fornito di roba di radioamatore, perché non c'ho la patente e non mi piace fare il pirata come alcuni che ci sono permessi di andare a rompere le scatole, io non sono il tipo, manco i 45 metri, ma mi sono provato che mi potevo permettere, non da adesso, da un bel tempo a averne a camere piene, però siccome mi hanno insegnato come si vive, e non mi permetterò mai, uno è averli per collezione, per ascolto, e uno è andare come fanno certi a rompere le scatole in posti dove non si può modulare. Io sono una persona che mi muovo passo per passo qua. Ma è giusto così, Gianni, giusto così, ognuno il suo, io l'ho preso nel 93, ma perché ero mitragliato, bersagliato, controllato a vista come proprio detenuti dall'escoradio, ce l'avevo sempre sotto, mi tentavano perché ero un pazzo furioso, stavo con le grandi potenze, poi non ho mai avuto baracchino omologato, ho sempre avuto gli HF, sai, Sassari, allora eravamo in tanti, chi per gelosia, chi per invidia, chi perché le rompevo le palle, facevano queste cose, ma no, io non mi sono scomposto per niente perché erano venuti qua, io con molta tranquillità avevo tutto piazzato, hanno visto tutto e hanno capito che la passione era quella e lì mi hanno dato 6 mesi di tempo, mi sono messo sotto e proprio per non prendere un grande verbale che allora in lire era di 3 milioni, mi ero messo sotto, avevo promesso appunto a questo grandissimo perché è stato abbastanza grande e molto in gamba con me, che adesso è in pensione, e le avevo promesso di trovarli. Datemi il tempo e la prossima visita che mi fate sarà tutto a posto. E così feci, ma mi ricordo che adesso mi viene da ridere perché l'avevo poi completata la IS0, ma quando erano venuti io avevo preso la speciale, le patenti erano due, avevo preso inizialmente la speciale, quindi ero tranquillissimo, ho detto no, c'è la speciale, non ha tutti nulla, posso manca a fare apposta dopo una settimana, 20 giorni eventualmente mi stavano controllando, erano venuti a casa, hanno suonato, ho detto prego, prego, accomodatevi, sono entrati, ah, perfetto, quindi tutto in ordine, tutto, ma c'avevo il 430, lo IAESU, il 757, avevo il TL922 che ho ancora, il TL922 della Kenwood, insomma che più ne ha più ne metta, ma fotografie alla mano perché ce le ho tutte qua in stanza, ho fatto tutte le foto, avevo il 101 della IAESU, avevo la linea Drake, avevo un sacco di roba già da quando ero mi sono preoccupato. Prego, prego. E ho fatto entrare. C'è allora, aspetta la patente, auguri, pronti, guardi. E dopo la patente, e gli dico, ma parita, cosa c'è? Allora lei non ha capito, mi ha detto. Questa è la patente speciale, dove lei può usare il baracchino per parlare nella 27. E le VHF e le UHF per quanto riguarda le bande amatoriali con potenza minima, allora c'era i 10 watt per le patenti speciali. Cazzo, ci sono rimasto così male già. E quindi siamo punti a capo. Queste radio che le HF non le può usare, le deve togliere. L'altro cosa faccio? Deve andare e completare la patente. Perché non l'ho già presa? No, lei deve prendere altra, l'ordinaria. E quindi metto di la telegrafia, allora, e vamos, di nuovo a studiare, a fare, guarda, un casino. E poi è successo che quando sono andato a dare la telegrafia, la prima volta ha crepato, avevo fatto, mi pare, 3 o 4 errori in trasmissione, non riuscivo a staccare il punto alla linea, crepato, stavano andando più, io me ne affutto. E lì per lì mi ero scritto la sezione ARI di Porto Torres, allora, che poi era passata a Sassari, mi ho trasferito a Sassari parlando col presidente, ho detto, oggi, ma ha detto, ma scusa, preparati i documenti, preparati tutto e vai, grazie, cosa ti prepari? Mi ha dato il testo, tutte le cose da fare, insomma, mi stavo mettendo in mezzo, mi preparo i documenti già, e ci voleva una osta della, che avevi fatto servizio militare, mi mandano una osta dalla capitaneria della Maddalena, perché ho fatto lì, e risulto, perché ero così, caporale maggiore, seconda classe, radiotelegrafista, ora con l'ufficio telegrafo. Alzo, leggo lo statuto e esonerava proprio quel punto D che era dove ero io. Oh, sono andato a Cagliari e mi hanno esonerato, quindi ho avuto anche il culo. Perché capita così, no, io ho ricordato la canzone quella delle marittime delle cose VHF, mi passo subito da Niespe a pescare con questi amici e rimanevo lì come un salame che sta pensato perché il mare lo temo, io ho portato la canna, però loro lo sotto e molte volte temevo che qualche luce ti va male. Allora quest'estate ho preso questa patentino per poter parlare, no? Sulla VHF della Marina, ma non più di tanto, e poi se sentiamo le mamme non parlo più da nessuna parte, claro. Ma conosco ancora quella persona molto in gamba, Emanuele e a signor Rocca anche. Esatto, sì, Nando, mio collega radioattore, grandissimo, grandissima persona. No, ma a suo tempo c'era quel disgraziato, mi faceva beffa, mi tentava notte e giorno, che mi tentava notte e giorno, signor Piras, mi tentava notte e giorno già, e quindi sono stato costretto, ma avevo preso l'impegno veramente, infatti, immaginate che ero andato alla prima sessione della telegrafia, mi avevano preparato, la speciale l'ho presa subito, avevo studiato, ce l'ho andato preparato, allora non era quiz, era compito scritto dove ti davano 4 ore di tempo, quindi quella l'avevo presa subito. Invece la telegrafia la prima volta mi hanno preparato, la seconda volta mi hanno esonerato, però mi ero preparato lo stesso, non era quello il problema. E sono tornati e mi avevano fatto i complimenti, e niente, infatti c'era mia figlia allora che era piccolina, si sedeva qua, cicù, e ci ha visto, ecco. Vede, anche sua figlia quando sarà grande metterà come lei, e quindi dai, dal 1993 oggi le cose sono cambiate, ciccio, mi sono preso altri bui di plumi, altre cose, eccetera eccetera. Va bene, Daniele, perdona, c'era un qui qua con Gianni, e niente, riprendi. Guarda, mi sto ascoltando qua, allora qua sono. Tu vedi Gianni, Daniele è un altro appassionato di radio, che però è mandrone, perché tra l'altro lui ha una scuola che le permette di essere avvantaggiato nei confronti degli altri, però non ha gana da pigliarsi la patente, vero Daniele? La ci scendo qua a prenderla, la ci scendo, prima o poi te la farò. Bisogna non mollare Sassari, che non dico qua chi sono perché vogliono stare incogniti, va bene lo stesso. Roberto si sta preparando nuovamente, non è, guarda, guardate che non è vergogna, se uno ci va veramente preparato, ma credetemi, non lo dico perché sono io, ma io sono stato 3 mesi che non accendevo radio, che praticamente dopo il lavoro mi mettevo, l'estate addirittura me ne andavo a porta chiusa nel poggiolo, a morire dal caldo, a studiare per non disturbarmi nessuno, mi chiudevo in camera mia. Era una cosa allucinante, l'ho proprio preso perché volevo che non mi rompessero più le palle, perché la prossima volta mi avevano minacciato, mi sequestravano tutte le radio ed erano tante, forse più di adesso, da pirata già, e mi mettevano una multa di 3 milioni, che ero disperato, perché ero già nel mirino, quindi questa disperazione mi ha fatto sì che puntassi veramente i piedi per terra e ce la dovevo fare. E così ho fatto, quindi quello che io dico a tutti, se uno vuole una cosa e la deve ottenere, non c'è da fare, io sono fatto così, se voglio una cosa la devo ottenere, perché se non la ottengo sto male, quindi mi punto, lo faccio e ci riesco, quindi puntate i piedi e cercate di fare, di studiare e di andare preparati, tutto lì, perciò già, capito, era una cosa che dovevo fare per forza, ecco perché l'ho dovuto fare, perché altrimenti guarda, io da 93 oggi penso che avrò sì e no un centinaio di collegamenti, da 93 oggi collegamenti buoni, discreti, ma 100 collegamenti, c'è gente che mi fa il gioco, 100 collegamenti in HF, proprio perché a me non me ne frega niente, guarda, sia le VHF, le UHF, le HF sono tutte spente, tutte, sto andando con il baracchino proprio per farmi due chiacchiere per divertirmi, per dirti quanto me ne frega, non me ne frega niente. La passione della radio è quella, e quindi a diversità di altri miei colleghi radioamatori che hanno abbandonato la 27, a me piace stare qua e ci sto, però a differenza degli altri tutto quello che ho è regola, quindi non me ne frega niente. D'altronde adesso, per far parlare meno l'avversario, uso il baracchino nella 27 e mi diverto di più. E quindi nessuno mi può dire niente, la concessione continuerò sempre a pagarla, sino a quando campo già, però a differenza di quando mi bussano la porta, io faccio entrare e faccio vedere, qualcuno deve stare molto attento a parlare meno, farsi i catti suoi, soprattutto, e pensare a quello che ha a casa sua invece di pensare a quello che c'erano gli altri, questo è sempre quello che penso io, avanti Gianni. Infatti, Meloni Rossi pensa alle proprie cose, no, io diciamo, poi sì, c'era anche uno che conoscevo di Ussi, una salì alla Escopo, lo conoscevo tanti e tanti anni, perché Ussi siamo a tiro di schioppo, e niente, e Giancarlo mi aveva dato il filo di chiacchierata in breccia, tutti i pugni dei testi, e stavo studiando, però pure anche molte volte, con il lavoro che faccio con lo scuola bus, vengo stanco, poi c'è un trascritto anche in asilo, me lo svolgo tutto da solo, per due comuni, e capite qui, ero fresco fresco perché avevo dato un esame per l'autotrasporto, su ricetta nazionale e internazionale, ho dato un esame grosso a Cagliari, l'ho detto. Mi sono rimesso nei parchi di scuola, andavo per 6 mesi, 2 volte alla settimana, ad Assemini a fare il corso, che iniziava alle 8 di sera e finiva alle 11:15 e poi dovevo rientrare. Attenzione Claudio, se copi questa attenzione cambio. Quasi maggio. E quindi ero anche un po' bloccato da tutti questi libri che ho studiato, però quel come si chiama della patente è sempre una meta che un domani devo raggiungere, però ho anche l'autorizzazione per la SWL, faccio molto ascolto su IHF, capito? Non è che mi dedico solo a parlare sul baracchino e leggo molte riviste di elettronica, cioè tutti i 25 elettronica che ogni tanto li disfuglio, me li avrò guardati 10.000 volte, tutto lì tra. E quando la passione è tanta vengono queste cose, però c'è anche gente molto gelosa che poi va, diciamo, a romperti le cose, non va neanche bene, io non sono stato né geloso, almeno quello Gesù Cristo mi ha dato, ognuno ha quei soldi suoi, può comprare quello che vuole, io, se una persona riesce ad avere quello che vuole. Io sono sempre contento, sono sempre dalla sua parte, sempre educato con tutti quando non mi notano le cose, perché mi ritiro subito e c'è la chiesa, però se noto qualcosa fatto subito, solo dei 5 minuti, poi già mi passa subito, ma però c'ho i 5 minuti che mi altero un bel, e vabbè ancora qua. Sì, ho lasciato un attimo di bianco, adesso passiamo a Daniele, e vabbè già quello è il carattere di tutti, quello è il carattere di tutti. Io da mamma a questa parte ho capito che va bene così e quindi mi sono ritirato un po' in sordina, va bene. Non ho accettato alcune cose che ancora non mi sono scese, comunque va bene così. Sono abbastanza soddisfatto, quindi non c'è problema. La gente come parla, chiacchiera, scambia opinioni e così via, perciò non devo essere assolutamente amareggiato di niente. Quindi va bene, sono abbastanza tranquillo e sereno, faccio radio alla mia maniera, non mi piace uscire bene con la radio, far capire la mia modulazione e non ascoltare fa di giro a brutto, non ci comprende nulla. Questo è il mio motto da quando ho iniziato a fare radio. Avanti Daniele, prendi. Oh, Astra, se non so se ho fatto la macchina, adesso ho fatto pio. Ma ti sei spostato adesso? Vabbè, l'occasione è buona per andare a casa e così lo senti bene a Capri. Ma ce l'hai sempre, sì, 140, non ti l'hai venduto? Questo. No, cazzo, l'hai messo sopra il sedile? Allora, hai capito cosa fa? Oh, qui si è fatto furioso, cazzo. Va bene, Daniele, ottima scelta. L'avevo messo anch'io una volta in macchina, ed ero andato in piazza dei sedili a provarlo, ma avevo visto Saverio, ma hai toccato, cosa è questa cosa? E la radio mi ha creato, qui si Maria, perché non l'avevo mai vista, no? Cazzo era allucinante, aveva ancora mi pare l'appunto Saverio, l'avevo provato, però io l'avevo provato con le BC60, una volta perché stavo facendo una lotta io con Franco, no? Franco California, da Lucca, anzi attaccava lui, e gli ho detto a Franco, aspetta un attimino che passo il capo a lineare, stacco le 4.40, lo pongo in macchina, e mi pongo sotto piazza di Lucca, dietro, dove c'è il Caracas, con le BC60. E la gente ha detto, io parlo adesso, ma io ti crepo, parlo, cazzo, lo sopravvolo di Lucca, io le risate ci abbiamo fatto, cazzo, fa, passato via, cazzo, sotto piazza di Giulia. No, ma stasera, quando mi hai sentito, lo stavo provando. No, cazzo, non te l'ho capito, davvero. Io ho mai detto, l'ho messo giù, ma giù pensavo giù da tua nonna, o giù in garage, giù dove c'era tettoia e ti sei messo a posto qualcosa. Non capivo niente, adesso ti ho capito. Forte, va bene. Con le MC60, vuole dire macchina, è già di Nafuti, va bene lo stesso. Hai capito Gianni cosa ha fatto Daniele? Sì, ti ho capito già, conosco anche l'apparecchio. Come sono andato facendo lui, ha fatto il compito, e tu ti era venuto qua perché era meravigliato all'epoca, che funzionava 12 volte cosa, te l'hanno piantato qua, e ti dico che andava, solo che era un barrascione, l'avevo messo nella parte del passeggero in terra, e così, giusto per ne farmi il gusto. Bene, signor, io vi saluto che la 50 mi ha chiamato per cena, è stato un piacere, grazie, più tardi mi viene voglia di modulare, quasi che altre due chiacchiere me le faccio, perché mi piace molto chiacchierare e conoscere sempre nuova gente. Tu già stai rispondendo, però io devo fare un salto a Ploaghe o tieni a tornare, vedrai che la ritiriamo su la 27. Per il momento vi saluto, ciao Claudio, ciao Daniele e ciao a tutti gli amici che sono in ascolto su canale 10. Capri 2 passa in QR10K, rilancio a te ancora Claudio. Sì, già, beh, ho passato anch'io, oggi iniziamo a abbassare i motori. Ciao Gianni, buona cena, grazie della compagnia, delle tue chiacchiere. Avremo modo di Medici Verdi Chiale e chiacchierare appunto di queste cose più approfonditamente. Non ci sono problemi, grazie di tutto, quando vuoi siamo qua. Io spero che la gente abbia accolto, perlomeno quelli che ho chiamato io, abbiano accolto il mio messaggio, credo di sì, perché oggi ho visto un grande riscontro. Qualcuno ha rispolverato le vecchie antenne anche da macchina, però si è fatta sentire, ho sentito Tore, ho sentito Luca da Porto Torres, Sandro ha messo l'antenna addirittura sul tetto, quindi insomma adesso sistemiamo Giampaolo. Su Sassari sono contentissimo perché c'è abbastanza gente sul canale 10, poi ripeto Gianni, il canale è aperto a tutti, io non ho niente con nessuno, chi vuole entrare può entrare tranquillamente, però è meglio così, è meglio così. Va bene, ciao Gianni, buona cena, buon tutto, alle prossime, avanti Daniele. Ciao Fabio, alle prossime, sentito, buon affari, buon tutto. Ok, c'era anche un radio, scusa ora, però io pensavo che avevi chiuso e ti scusa, mettiti a posto l'antenna, pensavo che te ne eri andato e guarda io a malincuore, guarda, non ti ho lanciato perché l'altro giorno magari ha chiuso. Comunque non ti preoccupare, ora piazzati tutto bene, che non è che ti ascoltano gli altri. Di nuovo, signori, vi saluto, è stato un piacere modulare con voi, io faccio il guerretti definitivo, ciao ciao. Ciao, buonasera, ti saluta qua Mauro, IBM, e ci sentiamo alle prossime. Comunque, Claudio, eventualmente possiamo fare anche un'altra cosa, trovarci un sabato sera tutti insieme, e niente, farci una chiacchierata e trovarci verticale. Va benissimo, tu avverti anche a Osilo di rispolverare, che ce ne sono altri che modulavano, e che a noi fa sempre piacere, più ce ne sono e meglio è. Ciao a tutti. Ciao Uranio, ti ho sentito adesso e non c'ho un filo di QRM. Ciao Uranio, buonasera anche a te, ben ascoltato adesso. Ok Mauro, su questo non ci piove, devo avere un pochino di tempo, adesso il 22 abbiamo quella cosa là giù da Gigi, lo sai, ne abbiamo parlato quella domenica mattina, amici di tu, appena via Antonello. E da lì iniziamo a far partire qualcosa invernale, dove quelli che appunto trafficano il canale 10 vediamo un po' di frequentarci. Io ho già rispolverato il giornalino, cercherò di completarlo il più presto possibile e darvene una copia, anche se mi dispiace dirlo, ma c'è qualcuno che appunto manca in questa iniziativa iniziata qualche anno fa. E mi dispiace davvero, lo dico con molta sincerità, però io non ho altro da aggiungere a tutto ciò che ho aggiunto, quindi chi vuole capire capisca. Era un'iniziativa che era nata con persone che oggi come non parlano, anzi con una persona che oggi come non parla, quindi io non posso farci niente. Però, ripeto, mi dispiace veramente che questo sia successo. E comunque cercherò di completare al più presto possibile quel giornalino, Daniele, così vediamo di pubblicarlo addirittura al computer e far sì che nasca un sito di questo benedetto canale 10 che da anni che ne parlo ma non si riesce a completare. Va bene, comunque cercheremo di fare di meglio, Mauro, cercheremo di fare di meglio. Va bene, non di meglio come cognome, che è un cognome napoletano che abita a Porto Torres, che tra l'altro conosco. Cercheremo di fare di meglio. Prego. Avanti prego, un attimino. Dopo si può organizzare anche qualche una mattinata di pizza, una pizza, insomma. Per trovarci tutti insieme, per svagarci e passare una giornata o una serata diversa, capito? Sì, registrato il break, mi sembra Antonio, sì, ma su questo ho detto non ci piove, noi l'avevamo già fatta qualche anno fa e siamo stati benissimo da Luigi, adesso vediamo di organizzarla diversamente con tutti quelli che vogliono partecipare, le persone naturalmente che frequentano questo canale e che parlano con il sottoscritto. Per quanto riguarda il resto non ho niente da aggiungere, non voglio polemizzare con nessuno. Avanti Antonio. Sono Spaghiera, Forza. Saluto e buonasera a tutti gli altri amici. Antonio Cantone, ben entrato, va bene soltanto. E niente, dai, io lo so che ci sia giostra, Claudio, me lo dirai tu adesso, va bene, sono entrato. E siamo qua, vai, dai. Il mic è te e poi girare, dai. Ok, cioè, ciao Antonio, due piccioni come fa l'ho preso. Io ho sentito Antonio, Antonio non mi può sfuggire, perché qua tra Roberto e Antonio non si scappa, sono 9.50 tutte e due, segnale massimo che io ho qua a casa. Quindi come sento che Antonio pitica il microfono, so già che c'è, quindi lo metto, lo chiamo immediatamente. E lui deve rispondere, perché se non risponde, lo sparviero che è più grande del falchetto, le mosche le ali. C'è Daniele in Baramobile e Mauro in Baramobile. Avanti Daniele per Torre di Tiri, Antonio Falchetto, che sai già chi è, che è rientrato, c'è anche Mauro. Vai Daniele. Adesso dice che non ti sente. Vabbè, ti bacio da Ponte io, ti saluta anche Tore da Itere, dai Daniele. Riprendi e fai girare. Ti riprendi qua. D'accordo, riprendo Mauro, scendo a bagnarsi il becco. E quando ti vedo ti prendo a morsi, perché mi avevi detto che non ne toccavi più, la mazza te ne varia, va bene, bagnati il becco. Sito, non c'è nessun problema. A proposito, visto che sei distante, tornando sempre col baracchino, ho inserito un piccolo linearetto, giusto per farmi sentire in lontananza. Oggi ho visto, mi ha sentito Pinuccetto, è entrato Pinuccetto, quanto arrivo benissimo, come quello grande, mi ha detto, forse anche più forte, proprio c'è più potenza. E quindi sono soddisfattissimo. L'occhio sullo smitter, un secondo solo, e mi dai un passaggio così che è normale, sempre col baracchino, è così che è inserito, mi dici di quanto aumenta, ok? Della Madonna, quanto aumenta il amplificatore, da 7 a 9, 15, quindi da 4 watt, con 4 watt e 7, con 90 watt e 9 più 15, allucinante lo stacco, non c'è bisogno di tenerlo inserito, giusto per quando c'è un po' di lontananza. Va bene, ottimo lavoro, intanto la radio rimane la stessa, ottimo lavoro. Adesso sto preparando le connessioni al Sadelta che mi ha dato Gigi, e lo facciamo lavorare col SEARS SSB50, che è un'ottima radio, sempre come questa a relè, quindi deve spingere tantissimo anche il Sadelta. E va bene, tutte le radio di vecchia omologazione, quindi senza nessun problema. Andiamo avanti così, hai capito Anton? Adesso mercoledì io sono libero, scendo al portatore, sai che mi faccio due chiacchiere con Gian Paolo Silvestro e dobbiamo risolvere questo problema dell'antenna. Telefono anche a Sandro Tigre, così ci rivediamo dopo tanti anni. Ho sentito a Luca, ho sentito a Tore, sempre di Portatore, se adesso ci vedremo tutti a Portatore e poi organizzeremo una pizzata tutti assieme, vecchi e nuovi, giusto per capire, vederci e sapere un po' com'è l'andazzo di questo canale. Avevo deciso di mollare, ma l'orgoglio e la prepotenza che ho tirato fuori ha fatto sì che questo non accadesse. E sono orgoglioso e tranquillissimo, perché che sentire gli altri parlare io no, non aveva nessun significato. Quindi a questo punto ho accettato anche la tua proposta, di andare avanti senza nessun problema. E te ne do atto e ti ringrazio soprattutto. Figurati, io te l'ho detto. Non bisogna mai sottomettersi a nessuno, perché non ha senso, Claudia. Hai le radio, devono funzionare e bisogna farle funzionare. Punto e basta. Poi se non li va a altre persone, non va alla tua modulazione, a noi non ce ne porta più di niente. E se ne vanno in altri canali, vadano dove vogliono, non ci sono problemi. L'importante è che tu fai radio come hai sempre fatto, educatamente, da davvero uomo e davvero appassionato di cose di radio, ecco, tutto lì. Bisogna fare radio, io l'ho sempre detto. Riguardo al discorso degli amici di Porto Torres, se hai bisogno, io sono il primo che venga a darti una mano, senza problemi, perché voglio che anche la frequenza si apri che... Niente, dai, va bene discutere, parlare, a me dispiace le persone che non possono modulare per colpa di uno stupido, io ho sentito un po' tutto il discorso di stasera, e per colpa di uno stupido non proprio montare l'antenna, non debba uno modulare, non esiste proprio. Ci puntiamo, tanto in carta alla mano, vedrai che l'antenna o dall'esterno o dall'interno si deve montare. Ti rilascio il mic, Claudio. Sì, Grasselle, Anto, sì, ma hai perfettamente ragione. Io adesso scendo prima mercoledì che sono libero, tanto scopretto perché devo andare a ritirarmi sicuramente una contravvenzione di via Pascoli in piazza Santa Catina, mi ha notificato l'altro giorno, vado a ritirarmi questa contravvenzione perché lo so, e poi scendo subito a Porto Torres e da Giampaolo mi verrà Rosano con i vecchi amici di vecchia data. Voglio vedere un po' la documentazione di Giampaolo, anche perché io so perfettamente che documentazione c'ha, mi faccio le fotocopie sia della documentazione delle radio sia della sua documentazione personale, dove ha nel modo più assoluto diritto e prevalenza su tutto. Dopodiché ho già messo in moto qualcuno che mi interessa ufficiosamente e che mi serve, dove poi vado a trovarlo in seguito, una volta che ho tutta la documentazione, sotto la tutela naturalmente di chi mi dà il supporto ufficiosamente, quindi di persone che pubblici ufficiali cosiddetti, io mi metto in moto, chiamo il fisio, faccio scendere l'autoscala a Porto Torres a mie spese e Giampaolo io le metto l'antenna sul tetto, perché è un diritto sacrosanto, è una legge che venne varata nel 1980 con i nuovi diritti di concessione e di uso di apparecchiature sia CB che amatoriali, pertanto la legge va rispettata, il decreto io ce l'ho già fotocopiato e quindi questo signore non deve aprire bocca, perché io a lui le faccio vedere che l'antenna sul tetto Giampaolo io gliela piazzo. Mi ha rotto veramente le palle. Adesso mercoledì scendo a Porto Torres, mi faccio due chiacchiere con Giampaolo, c'ho appunto anche Sandro lì, perciò non ho problemi. Dopodiché, Anto, ci si mette in moto tutta la forza che abbiamo e l'antenna va montata sul tetto. Mancare ne esce la luce, ha detto, perché io la piazzo esternamente, da solo pubblico, quindi non vado a disturbare a casa sua, visto che lui non vuole dare l'accesso, e se poi mi punto l'accesso me lo dà, perché è una legge, capito? E perciò poi se ne discuterà di questa cosa. Comunque, mi ha fatto piacere che stasera ho sentito 3 o 4 il produttore, se ho ricevuto un bel po' di telefonate, perché non per solidarietà, ma per orgoglio e forza di fare. E la gente, che i vecchi che naturalmente ascoltano e non parlano, sono solo impossibilitati, come mi ha detto sia Torri che Luca, che dell'antenna, ma mettono l'antenna anche loro e quindi saranno effettivi anche loro in radio. Tutto il resto è noia, capito? Tutto il resto è noia, non ci penso minimamente. Ho avuto questa forza, ti ripeto, grazie anche alle tue parole e a quelle di qualche altro, e quindi continuo a fare radio e per non dare adito a far parlare la gente, vedi bene, uso un 23 canali omologato di vecchia omologazione con un microfono da tavolo che posso tranquillamente detenere, usare e farne quello che mi pare piace, anche mangiarmelo. Avanti Tore, quindi hai visto il 23 con il lineatino, la valvolina, da 7 a 9 e 15, va bene, no? Una cosa vergognosa, no, tu non sei a punto di bene, no, non ce n'è, non ce n'è. Campo di diritto e non c'è niente da fare, cioè no. Tanto se dovessi mandare in causa la perde, capito? La perde, perché l'ha persa un condomino con Antonio Monteoro a Sant'Orsola, che lui ha comprato la casa lì e lui ha comprato la casa all'ultimo piano. Antonio, la prima cosa che ha fatto, ha montato un'antenna, come facciamo tutti, insomma, la più, quella che le V e le U. E questi già hanno cominciato a martellare, a fare, Antonio, fate, no, non c'è problema, fate, forse sei stupido Antonio, fate, che non c'è problema per me. Mentre loro stavano sempre scrivendo, mandando Antonio una piazza domanda, ma una piazza domanda di 15 metri, adesso mi mette la direttiva, capito? E beh, sono andato in causa e rimesso, non ho perso perché, intanto, perché vabbè, l'agevolazione della maturi è diversa da quello dei CB, però il diritto è uguale, preciso identico. L'impostazione dello statuto è quella, a prescindere che uno usa antenne a larga banda, l'altro usa delle antenne a banda stretta, quindi, però il procedimento è sempre quello. E quindi niente. Poi l'iscrizione alla protezione civile è una cosa di legge, quindi autorità assoluta, e perciò mi penso immediatamente, subito immediatamente. Perciò anche questa signora, come ha detto Giampaolo, lui non vuole andare a vie legali, vuole solo farle capire che è un diritto suo avere l'antenna sul tetto per poter far sì che tutti lo sentano, non che stia così a parlare, salutare solo a quelli portoghesi o i camionisti che passano, no, non va bene così. Lui deve parlare con tutti come parlava prima. E io ti dico che questa storia si finisce in bellezza, perché ho già tirato fuori la documentazione che interessa a me come statuto, che io ce l'ho, e c'è proprio tutte le bande dalla A alla B, nel senso che nei 10 metri comprende anche l'installazione antenna verticale, comprendente la banda intermedia, quindi la banda stretta 11 metri, perciò lei non ha niente da dire. Ha poco da parlare con me, molto molto poco, io lo faccio avere l'antenna alla piazza, se lei non mi fa salire, io chiamo il fisio, faccio scendere l'autoscala a spese mie, si va a trattare un razzo a 40 metri, io ando e pongo l'antenna al centro della gabbituria, tranquillo e sereno. È un casino qua, via. Ci sono sempre le persone che si mettono in mezzo alle balle. Adesso, per esempio, uno che mette di fronte a me, non è pronto alle balle la verità, però va di tu, un giorno. Quell'antenna disturba, ma quello quando? Adesso sta disturbando, ma se io sono qua, non sto parlando, come fa a disturbare? Però la specie vuol dire tu, perché ho un'esperienza, perché non mi vanno e dai, ora 70 e passa anni. E io la trappa di sud mi chiamo in controllo, poi vediamo se come stai dicendo lì. E intanto non so che non si regola. Vabbè, se vuoi ti posso anche dare i documenti, tutti i documenti che ho fatto, i versamenti, non è il problema. E non è proprio una persona che non è. Non si non. Una maledetta è boh, una maledetta. Comunque là. Come utilizziamo il canale. Là io rilancio a te, mi assento 5 minuti, 10 minuti e poi girare tu, vai. Sì, anche io mi assento perché è pronta la cena, io sono qua dalle 6, oggi abbiamo fatto grande radio veramente, tratta tantissima gente e sono contentissimo, abbiamo scambiato un po' le opinioni tutti, con Gianni, poi Capri, ci siamo scatenati in racconti di vecchie radio, eccetera eccetera, comunque va bene, sì, quando la gente è ottusa e basta, non c'è da fare, però l'intelligenza e l'educazione delle persone fanno passare a questi individui la capacità di mettere in moto il cervello, capito, quando aprono la bocca, perché non c'è Cristo per nessuno. Raga, io vi lascio a tutti e due, Antonio e Tole, c'è anche Daniele, se non è arrivato a casa, rimettono a te, Daniele, fai girare, io vado a mangiare un boccone e poi sono di nuovo qua, ok, Daniele, a te il mic, cambio. Ma già. Ah, cappa. dice Antonio, c'è Tore, ti rimettiti in una posizione che li senti, e io va, quarto d'ora sono nuovamente qua, non c'è problema. Ok, Anto, microfono per te, io mi assento un quarto d'ora, mangio un boccone e poi c'è qua a capo. Daniele, se vuoi attendere, c'è Tore da Itteri. Ciao Luca, comunque, ben entrato, ben ascoltato. Io vi devo mollare un quarto d'ora e così dopo riprendo. Grazie a tutti. Più dopo se coincide, Tore. Riprendi le macchine tu. No, io sono sempre qua, non c'è problema, non sono abituato ad andare via senza chiudere il questione. Ok, ciao Antu, buonasera anche a te, allora ci sentiamo dopo, un quarto d'ora, 20 minuti Daniele, così si assenta anche Tore e poi riprendiamo qua sul canale 10, lei fuma una sigaretta e poi ci sentiamo dopo, ok Daniele? Questo caso, via che lo cambio, questo Smith. non avete trovato scritto il suo, ci sono scritti i numeri, perché c'è passa da un anno per curare per poi ci prendisce. Ah, allora gli è cambiato smitter, dai. Non è generoso, è avaro, no? È avaro, avaro proprio. Ah, parroci. E allora, stravaccato è stamattina in campagna. C'è andato di acqua, non va così, no? In campagna, quando finisce la pioggia adesso, mercoledì, giovedì sono lavorando. Così passiamo il catrame e sigilliamo tutto. Allora, il catrame è sul tetto. E ci vuole per forza, perché è dalla 40, abbiamo fatto dei fuori con fuori catrame, ma non basta. Capito? Dobbiamo incatalarlo tutto, perché se fate incatalare che c'è sopra c'è scritto l'altro. Cioè farete come comprare un paio di guardare quanto è la lunghezza del tetto e si riparte, compri due fogli di cartone, due rotoli di cartone, capito? Con la mette la bombola, il cannello e te lo salvi, capito? Ci vogliono più di 2 rotoli, insomma. 2 rotoli ce ne vogliono solo da una parte, quindi ce ne vogliono almeno 3-4 rotoli di cartone incatolato ci vogliono per fare tutto. È positivo, almeno salvi un po' il tetto. Dove c'è filtrazione d'acqua? Perché ci sono i filtratori d'acqua, ci sono. L'unica cosa che ho tappato l'altro giorno è c'era una fessura nella porta che si era marcita e stava in tubinetto. Allora ho fatto una specie di basamento in lamiera, così il topo non entra. Già gli ho messo le cose per la caramella, gli ho messo già, sono morti due subito. Anche il puletto è morto, figurati. Lei si era mangiato qualche topo che ne ha fatto, è morto anche lui. Ehi, chi me? Parroci. Ecco, è entrato anche Claudio. Avanti Claudio, compagno di buon pugno. Avanti, Sma. Via, ok. Come trovare, fa lungare anche colpa. Sono con 140. Un pochino, un'oretta, può essere 10. Spendiamo tutto, ci andiamo a nanna. Che domani si trabacca. Guarda che tanto. Ah, vai, calma giocata. Ha passato il vento, non sta più piovendo. No, un carro allucinante, ho dovuto riaprire la finestra. È vero, e si conferma. K, è vero, c'è stato il vento e c'è caldo di nuovo. Ok, riprendi i pompi. Io non sento niente. Vabbè, c'ho le rende chiuse. Stasera sentivo, mai sentito Ocla, come tirava il vento, sentivo il rumore dal caminetto, entrava il vento dentro, sembrava ci avesse la vaporia agganciata. Sì, ma poi non c'è un filo di corrente adesso, vedi come succede, così. Adesso ci fa staturare, non l'avevo sentito. Prima non lo sentivo, e c'era un sacco di corrente col baracchino. Ma anche con questo non c'è niente da fare. È sempre così il discorso. Quando piove e c'è vento, c'è un po' di corrente. Tutto lì. Va bene. Mandigalo, va tanto. Sì, sì. Mandigalo. Alla grande. Come facciamo la cattura di altri fettettini di agnello? Integrame. Di pranzo avevo un pezzo in una bella cuscia in freezer, poi c'è un di l'agnone l'ha fatto mia moglie, ma così buono, cazzo d'olive e carote, molto buono, ciò mi fa male a casa. Ma speriamo che faccia niente stanotte, se no diamolo. Già non fa nulla, e poi se ne hai mangiato 2 pizze non è che faccia niente, eh. Non le posso mangiare, non le posso mangiare, ma mi piace, tanto le mangiare, basta, sono chiamato poco sappiamo, di quella cosa che ti ho detto, perché la cosa imminente di questi trasferimenti, e quindi il direttore vuole fare una riunione per vedere un po' come la situation. Infatti mi ha avuto un mese, ho detto ma non è a mangiare, no, poi ho già prenotato, andiamo tutti via da Perotose, la Ciria, grazie. E poi mercoledì, io ci ho libero, me la tutta scena, mercoledì io ce l'ho libero, quindi, invece parlarti. Riprendi Babbo. Speriamo che mangi il Babbo, almeno martedì. Comunque c'è un bel negozio. Assaporato che cosa voleva dire, diciamo che tutto durato 4 mesi e mezzo. 4 mesi e mezzo non posso dire di calvario, perché era un calvario. E guarda, mi sono lapidato ai vetri. Purtroppo erano vetri dove c'era del sapone, scivolavo. Non riuscivo a adattarmi, non su internet, guarda, proprio tutto. Ho conosciuto la sanità, non ho paura a dirlo, perché ho conosciuto la sanità. Non tutto, posso dire, non tutto, posso fare un bel fascio, perché ho conosciuto qualcuno della sanità veramente in gamba, o del cuore, come il coso, insomma, comunque. E niente, io ogni tanto lo ricordo perché per me è stato campione. Lui era un campione, faceva pista freestyle, faceva i campionati di pista, andava in Spagna, a Barcellona, ha vinto il campionato, in casa ho quadri, ho bravo di tutto, ecco perché ogni tanto mi piace ricordarlo, perché è così. Perché è una cosa grande, non ho parole da aggiungere, la perdita di un figlio è una cosa troppo grande, io non mi metterei mai e poi mai a discutere una cosa così grande e soprattutto così forte come sei tu, perché io ti conosco una vita e so che sei una persona che non ci sono parole da dire, di niente, però ti ammiro perché sei stato forte da tutti i punti di vista, forte per affrontare quello che hai affrontato e forte oggi che hai ricordato una cosa grande. Io non sapevo minimamente, Sandro, proprio zero sotto zero. C'erano tutti, ma io non avevo, non mi ha spinto proprio a venire lì perché non sapevo che c'eri tu di mezzo, altrimenti stai pur certo che non sarei mancato. Comunque, è così, non c'è niente da dire perché è una cosa che non perdona nessuno, né piccolo né grande, solo che lui era il fiore della giovinezza e quindi è andato a prendere proprio una persona così piccola e così grande allo stesso tempo, che sono dolori che non si possono mai dimenticare. Avanti Antonio. Positivo. E purtroppo si conferma, è così, la vita è tutta una ruota, purtroppo se ne vanno grandi, se ne vanno piccole, se ne vanno medi, purtroppo sono il caso della vita, è così purtroppo. Io ti ripeto, adesso c'ho la, per dirtene, siamo in argomento, c'è la mamma di mio compare, e vabbè, a una certa età. Però questa donna si sta lasciando andare, non mangia più, non sta facendo nulla, c'è solo seppelle, se l'ha dovuta ricoverare perché almeno parli d'olio a flebo perché non la stava più mangiando, purtroppo è così. Boh. E senza contare c'è una sorella che un piantetto di recuperi, lo stesso, la malattia brutta, insomma, di più ne ha più metto. Per carità di Dio, ecco perché si dice molte volte che non ne vale la pena e la candela di bisticciare, di fare, intanto in questa vita siamo solo in passaggio, conviene solo essere discussi, tranquilli, sereni come Dio comanda, perché nella vita, ripeto, siamo solo in passaggio, tutto qua. Giustissimo, sante parole. Ecco perché delle volte ci incavoliamo, magari diventiamo gelosi, italiano che poi per niente per delle stronzate, quando diciamo che non hanno valore nella nostra vita, purtroppo quando arrivano bisogna accettarle, perché ti poni tante domande, tante perché, senza una risposta logicamente. L'unico discorso è che la rassegnazione, io ecco perché adesso ho tolto fuori l'apparato, anche giusto perché ormai sono già 9 mesi, diciamo da quando è successo, diciamo che mi stavo un attimino tirando su, quindi ho messo sull'apparato anche giusto così per dialogare con qualcuno, parlare giusto per vedere, perché la testa diciamo delle volte andava a finire a pensare, a immaginarti, magari avevo sbagliato qualcosa che magari potevi fare e non hai fatto, tantissime cose qua. Io mi ricordo quando ero stato a Cagliari, andavo al chirurgico, io prendevo la macchina, beh, non sapevo neanche io se salutavo come la facevo tranquillamente, non impazzito, rimanevo là tutto il giorno, rientravo a casa, un cagnolino andando anche, comunque non voglio prolungare più di tanto, dai, tutto lì. Lo so Sandro, lo so, è bello parlarne perché si può parlare anche di queste cose, la radio è fatta anche per esprimere cose brutte come ho detto stasera. Cose dove ci rimangono pensieri e dolori, però nessuno può portare in vita nessuno, quindi si può sempre parlare. Mi dispiace Sandro, veramente, io ti ripeto, non sapevo che era tuo figlio perché io non ricordavo il tuo cognome. Mia figlia lo conosceva benissimo perché era sempre lì, la sua greffa è nata lì, in piazza Garibaldi, il suo ragazzo di Porto Torres, quindi si conoscevano benissimo, molto molto bene. E quindi infatti adesso mi ha detto che sì, il padre si chiama Sandro. Ha detto beh, sta parlando con me alla radio. Ma non sapevo che il coscio eri tu. E vabbè. Comunque, l'importante è che ti sento che sei in fase di ripresa. Continua a farlo perché sei da ammirare. Io, con tutta la mia grande grinta, la mia chiamala come vuoi, non ci sarei mai riuscito. Sarebbe stato per me una cosa troppo grande. Vabbè, cambiamo argomento, se no chiudo direttamente la radio. Avanti Antonato. Ehi capo, su cosa succedono purtroppo? Volevo chiedere a Sandro se mi ascoltava bene a Palottone, che io lo sento, di segnale strano. 5 e poi compiti negativi parecchio alti. Non so se lo mi sente bene a me, boh. Senti Sandro, Antonello Alessio. Sì, lo sento tra il QRM e riesco a tirarlo fuori a malapena, delle volte non riesco a percepirlo. Ecco l'altro Antonello, c'è tanta attesa. No, sono stato nel 2009, questo tanto non posso usarlo adesso. Stasera attaccato ci sono problemi nella centralina qua, non si capire, non si vede R1, quando piove sparisce R1, R2 e diminuisce il segnale, ci deve essere le antenne in corto, ci devono essere sopra. E quindi come attacco il cavo disturbare la televisione che c'è in camera dove c'è Simona. Se non avrei attaccato non c'era stato problema, sono stato nel 2009 per quello. Perché? Il tratto siamo molto vicini con Antonio nella zona alta, però insomma noi possiamo fare miracoli. Ok, avanti, poi che mi sembra pure di Daniele, avanti. E allora, saluto la circolata a tutti. Vibra ad ascoltarsi. Ciao Pomponio. Yeah, ciao Daniele, sentito, salutori. Sono abbaccando stai. Cosa lì? Se stai lavorando. Ciao, dove quale viso che mi hai visto? Me lo sono immaginato. Farò bene a partire a fare il capo, speriamo che non ti chiami mai nessuno. Che sia una giornata fortunata, non ci sia nessuno a portare il carosello, se no già la passi bene, se no, ui. Lo spero, Ale, lo spero. Allora, a cucina di Bulgaria. E che ti l'avevi detto? Io quando avevo le ambulanze in mano della Croce Bianca facevo dalle 10 di sera fino alle 9 di mattina alle 8, poi alle 8 arrivava, veniva invitato una carina a fare servizio, poi gli passava Coso, Roberto. Dopo mi sono divertito parecchio, quindi la verità, però ho passato giornate con due persone, tu immaginati in due lì buttati in mezzo alle case da morto, perché la sede era proprio dove c'era, la sede c'era le case da morto, fino alle due lì che si divino scricchiuli la notte. Faccio allora. Ma li tutti di qua. No, ti compresi, quasi vendi. Forse l'ho intuito perché ti ho sentito poco fa che parlavi e appunto ho parlato per la divisa celeste, quindi ho capito più o meno cosa stai facendo. E fa il turno, praticamente quando hai montato il turno. Alle 8, sì, stasera. E smonti quando? Domani mattina alle 8? Montando, rimontando. Da quanto monti la mia TV, video, eh? Hai visto, eh? Avanti, Antonio. È così. Purtroppo il lavoro si accetta per quello che viene. È così. Riprendi, sala. Ok. Sono Antonio, mi abbiamo ascoltato. Ok, adesso riesco a tirare fuori Alessio con qualche coglimento qua. Allora, dimmi se sei il vecchio Alessio, scusami per il vecchio, ma io intendo vecchio come anni addietro sulla frequenza. Se a voi ormai sono vecchio, l'unica cosa che mi sono rimasta è la dentiera, i capelli li ho tutti persi. Eccetera eccetera, quindi senz'altro ci conosciamo, non ci sono preoccupazioni per quello. Meno male avete attaccato almeno qualcuno. Giampaolo c'è proprio di caccia purtroppo e quindi non può attaccare. Comunque Ocla, ci stavo ascoltando stasera, guarda che non devi entrare in casa di nessuno qui per installare l'antenna, c'è una botola all'ultimo piano, dalla botola c'era una soffitta e la soffitta sarà in pari direttamente fuori, non devi entrare in casa di nessuno, eh. Questo sì, ma evidentemente c'è stato qualcuno, sai com'è, no? Qualcuno magari curioso, qualcuno che ad ammiro si fa avanti e dire ma perché questo e quell'altro, allora magari vuole che al momento non se la sente o per il momento non vuole, capito? Per mercoledì quando sono tornato lo sentichiamo e ci facciamo due chiacchiere e vediamo un pochino come la situazione, perché voglio capire se è una puntiglia di questi dell'ultimo piano o una puntiglia di tutti, perché bisogna capire prima di agire. E poi si agisce tranquillamente con molta educazione e con documenti alla mano, si cerca di far capire a queste benedette persone che le cose vanno rispettate e soprattutto la legge va rispettata, perché è un diritto piazzare un'antenna. Io diciamo ho fatto da qua a Via Pascoli, da Via Pascoli a qua, e ti posso dire che qua come sono arrivato nel 1985 la casa era già tutta pronta, non ho fatto altro che organizzarmi e montare le antenne su. Per correttezza c'era un amministratore, c'è ancora, da 23 anni ci conosciamo benissimo. Lui ha fatto sapere, è stata fatta una riunione condominiale dove nessuno ha dato parere negativo, con documenti alla mano. Quando sono andato via da qua, ho lasciato per un anno e mezzo l'antenna sul tetto, siccome l'antenna era già in stato un pochino pericoloso, mi ha telefonato l'amministratore, mi ha detto Claudio cosa fai con l'antenna, la togli? Non la metti in sicurezza? No, gli ho detto che la tolgo perché adesso non sono più lì, giustamente l'ho tolta, sono venuto, l'ho tolta, l'ho smontata e ho messo tutto in massata. Quando sono andato nella casa di Via Pascoli ho fatto la stessa cosa per correttezza, ho sistemato tutta la casa, beh, quando ho terminato i muratori eccetera, dove c'erano i muratori, quando ho fatto finito tutto, siccome la palazzina era piccolina, ho fatto io personalmente, ho convocato io un'assemblea nelle scale, nell'androna delle scale, dove ho detto io sono un radioamatore, questi sono i miei documenti, devo montare su qualche antenna. Infatti non ho detto qualche antenna, cosa vuol dire? Un paio di antenna, due, tre, possono essere anche quattro, che problema c'è? C'è il cavo che mi fa passare dal lato mio, dalla parte mia, dal lato giardino, certo non mi faccio passare l'autostrada facciata. Sono andati tutti, in reazione, nessun problema. Anche uno mi ha detto di cosa si tratta. Sono apparecchiature amatoriali, quindi radio, vince trasmettitori. Nessuno ha detto CB, non CB, nessuna obiezione. Siamo andati, facciamo il lavoro, stiamo attento al terrato perché l'abbiamo fatto da poco, lì non era ancora presente, nessun problema. Così ho fatto, ho montato le mie antenne, mi ho passato i miei cavi, mai ho avuto in 3 anni che sono stato lì un problema con nessuno, anzi, è un palazzo di 5 piani ma tutto di persone anziane, era un punto di riferimento perché sapevano quello che facevo, qualsiasi cosa mi contattavano per qualsiasi motivo, quindi sono stato tranquillo, sereno, al mio posto senza nessun problema. Quando poi sono tornato qui, non ho fatto altro che smontare pian pianino le antenne, per riavvisare l'amministratore, di guarda che le antenne le sto mettendo non sul lato della scala G, ma sul lato della scala F, perché l'appartamento ho rinnovato quello dei miei soci. Claudio, quello hai fatto prima, fai adesso. Tieni conto che prima erano piano e che quindi cavi te li potevi portare all'ingresso alla finestra. Adesso li devi canalizzare perché se rimangono in facciata anche interna sono brutti e poi col vento sbattono e la gente rompe le palle. Non ti preoccupare, sarà fatto. E così ho fatto. Ho canalizzato i cavi di discesa dentro il pluviale, a fianco al pluviale, ho fatto lavoro a poco, ho speso qualcosa in più perché giustamente devi mettere tutto in sicurezza e nessuno ha tentato la condominiale, ho consegnato la chiave della sala condominiale che avevo prima, quindi della mansarda, e siamo tutti felici e contenti. Non vedo perché questa signora non debba fare la stessa cosa, sa? Lo so, diciamo che tu hai reagito da persona civile, da persona corretta e così via. Giustissimo che si debba reagire in questo modo qua. Io sono del tuo parere, che l'unica avversione è questa. Quando uno, diciamo, è in piena regola, c'è poco, diciamo, da cosa. Se poi sorgono, diciamo, dei disturbi, sorgono qualcosa, uno ne parla, verifica tutto e cerca di evitare, diciamo, i disturbi, perché non è giusto, diciamo, che uno deve andare, diciamo, a disturbare l'altro, perché non è ammesso. Adesso in questo settore qua bisogna capire un attimino qual è vuol dire tutto quanto. Adesso, siccome in questo canale qua, il canale bassi, ho quasi 1,5 di frazionaria, sul canale, l'ultimo canale, su 40 ho 1,1, potrebbe verificarsi sull'ultimo stilo? Parlo tecnicamente, mi riesco, vediamo se lo senti, perché è successo anche a me, è successo anche a me, però sai, veramente, ma per me non è molto facile, no? Quindi sono andato a intermediare la mezza banda cosiddetta, il centro banda, e me lo stabilite sul dal canale 20 in giù al canale 1 e 1, mentre invece dal 20 sino al 50-60 canale ho 1 e 2 e il problema l'ho risolto così. Adesso bisogna vedere tu che tipo di antenna hai e se si può agire dallo stilo centrale, Antonio. Bisogna vedere che antenna c'ha lui. Se c'ha una BIA 26L, su un 40 c'ha un E1, invece nei canali bassi c'ha un E5, allora mi sembra che scende la penna per lo stiletto, quindi deve fare in pratica l'inverso, frequenza alta, il coso rimane più corto, frequenza bassa deve sovrare. Se non mi ricordo male era così la frase. Ok, allora Antonio, l'antenna è una Sirio P27, l'auto Raguari. E c'è lo stiletto sopra, così è. Esatto, c'è lo stiletto sopra che sull'estensione dice di mettere a 43 mm. Ma ci si è segnato, se è stato segnato, cioè beh, no, non penso che ci sia 43 mm, giusti, ci sarà un segno. Evidentemente è a banda stretta questa antenna, non è a banda, o c'è qualche problema di massa tu nel palo. Tu hai sentato qualche problema di massa nel palo, quando l'hai installata hai capito il palo? Allora ti spiego, con la auto raguali, lo stile non era segnato, l'ultimo stiletto non era segnato, l'ho segnato io, diciamo, ho preso la misura col metro, al millesimo, l'ho segnato e l'ho bloccato lì. Logicamente massa sul palo non ce n'è perché ci sono delle staffe murate e poi è attaccato il palo. Non hai capito? Allora, nella staffa dell'antenna, come hai agganciato il palo, cioè in pratica il palo va agganciato all'antenna, lì se il palo è ossidato non c'è massa, in pratica la massa fisica te la fa solamente gli 8 valori che c'hai. Hai capito il problema, che cos'è? No, Antonè, un palo nuovo, non lo ricerca, un palo da 40 mm che non entra proprio dentro la zanca, diciamo, dove va a stringere la fascia dell'antenna, e un palo sbagliato, proprio nuovo. Dovrei togliere la palla per la zingatura, si graffia sempre il palo quando si mette, se no ti crea problemi. Hai capito cos'è il... non c'è la, non c'è buona massa, perché c'è la zingatura e non ti fa fare massa le gambe che c'hai. Capito cos'è il problema? Non so se siete insieme a quando tu vuoi saldare un palo zingato, non ce la fai saldare, se tu prendi la zingatura, con la saldatrice non puoi saldare, capito? Perché non ce la fa saldare. In pratica si graffia. Comunque ricordatelo sempre, quando piace un palo, che sia un palo d'acqua, che sia un palo normale, si deve sempre graffiare, perché o c'è ossido, o c'è la zingatura e ti funzionano solamente i radiali. E buh. Diciamo allora leggermente in campo perché c'erano delle imbarbature diciamo di zingatura, come è stato zingato un palo e poi buttato giù il palo, messo le fasce e così via. Però infatti nella modulazione ho dei da 1,5 da 1,5 diciamo di stazionario mi scende 1,2 in realtà. C'è proprio pari massa, cosa vuol dire? Quando stai passando pochi giorni, sali sopra il tetto, scendi il palo e passi una carta abrasiva e togli la zingatura. Tu vedrai che quella te la scende a 1 e 1. Poi di fatto me l'ha fatta a me con la mantova, non sono andata a piazzare dalla 5 alla, cioè dalla 1 alla 5 che mi ha fatto tutto per quello, ho dovuto scendere giù per quel motivo lì. Fare quel lavoro però come ti trovi meglio, almeno se sei tranquillo e non attacchi più l'antenna. Allora, quando vai da Silvestro, io ho visto tutto l'impianto com'è, i tubi, c'è la prima scatola lì sopra, c'è un tubo da 25, cioè, quindi scendono 3 o 4 cavi di 58 dentro, fino a casa sua. Fammi salutare Antonio. Ciao Antonio, noi ci sentiamo domani. Buon lavoro con tutto e buonanotte. Alle prossime. Sarai contattato Antonio, non pensare che io vado lì per fare il buffone, devo avere il supporto delle persone che capiscono e sentono il problema. Quindi io sono mercoledì vado, sento Giampaolo, cosa mi dici, mi faccio due chiacchiere e poi ci consultiamo un po' tutti assieme e vediamo di risolvere questo problema, perché è una cosa veramente vergognosa, non voglio aggiungere altro. Antonio, ci sentiamo domani, buonanotte. Sul sito ufficiale della Kenwood, che tutte le, tutti i pezzi del funzionale. Capo costa 160 euro più IVA. IVA è esauro. Se tu guardi 140, visto che c'è la maniglietta, no? Ci sono i fori con la maniglietta, quindi si toglie quella maniglietta e si elimina. Dall'altra parte ci sono altri due fori dello stesso diametro, va attaccata lì con dei pini a agganciare, sotto c'è un piantone in molla, quella molla, che va praticamente a tenere la radio stabile, e poi c'è quello. Un'asse, che è fatta bene, si può lavorare, che è una cosa lucidante, ha un'asse, sempre con delle rette in acciaio inossidabile, che ti spinge la radio per regolartela in alto o in basso, no? Per averla affrontare sulla macchina, come una tappa normale che c'ha quei pomellini che si stringono e si allargano, questa invece è automatica, è una cosa lucidante, capo, devo tenere il peso della radio da mia. Adesso già così sente come è peso. No, è stretta, è larga quanto la radio, è tipo un cassetto, Questa radio tu la vedi scendere dentro questa staffa e poi si aggancia a tac. La bocca viene bloccata e oscilla come tu vuoi spostando queste molle in avanti o indietro. Aspetta, è grande quanto la radio, Non è una staffettina piccolina. Io l'ho vista, ma costa 160 euro più IVA, quindi sono 178 euro ti viene in vatta, più trasporto, 300 euro, guarda la radio, mi compareggio. Ah, ecco, ma senti la fettuccia, adesso ho capito. Guarda, intanto qua è sempre chiara. Registrato. Sembra un'attesa, lui fa un lavoro particolare, e quindi ci ha portato la radio, ma quella toccata ti potevi portare invece 60, no? Lo poggi sopra la radio, visto che hai fatto 30, fai 31. Lo buoni, e via. Io l'avevo messo una volta, vabbè, stando fermo, certo non puoi usare camminando. Stando fermo già si può fare, però non è un problema così. Quanto non c'è Antonè? Quindi che te non c'è stata la guerra di 7 anni? No, è simile alla... vediamo si chiama... c'è in pratica la carica in rame, non accendo, che è bloccata con un coso in vento, capito? La vedi dall'esterno. Non mi ricordo come si chiama l'antenna. Tipo la Pega 27 mi assomiglia un po' alla Firenze 2, solo che forse è la Firenze 2 con l'involucro che c'è, e questo c'è l'involucro che si vede la carica, e lui c'ha 8 variali in pratica, e sopra forse doveva avere la bittina come c'aveva la Firenze 2 nella regolatore stazionaria, c'è lo stiletto che si sale e scende e basta, tutto lì. Ho capito quale, sì. Simile, è molto bella anche quella che c'è a Mauro, la Ringo, praticamente a filo unico, poi c'è questa spirale, il cortocircuitato, c'è il sistema rotazionale a ghiera girevole, ha detto boom, ma non mi affleggo, poi ho visto il disegno, tu sei, e quindi praticamente giri a 45 gradi la ghiera, c'è una misura che devi rispettare e la blocchi col badino, col dado controllato, c'è la spinettina, la inserisci dentro e poi la blocchi, ed è un bel sistema anche quello, solo che hanno fatto il filo molto corto e quindi più di quello non puoi lottare, se no spezzi il filo e quindi rimane sempre a 1,2, 1,3, non scende più di quello, ma va bene. Così per Mauro va bene, se con lineare attaccato sale a 1,4, va benissimo, per l'uso che ne fa lui va più che bene. Però che non si gira la barra, mi porto, dopo lui già c'è la salata da gas come il mio. Mi sbaglio e si viva da lungo, me lo saldo più lungo, perché le voglio portare proprio a 1,1 su tutte le frequenze. Là ci sono stabili, la canale 1, la canale 45, sempre 1,2. Sempre 1,2, che vanno più per bene, 1,2, 1,3, sono stazionari accettabili. E detto, ma usa lo salario, ma no, o no? Vale, io ho già più veloce. Ehi. No, non devo telefonare, ma mi ha dato tutto, come si chiama, tutto qua. Io ne faccio, io chiedo il lavoro. Questa radio, poco parola, la manassa, $100 a posto, togli me 400, ma 650 euro. Nuovissimo, avrò qualche mese di vita. E ce l'ho ancora, funziona perfettamente, cioè l'SM20, l'SM8, poi il microfono della Icom, ma l'ho sempre usata così. Sempre usata così. E devi stare attento a volta. Se prima si fu un disastro, totale, un disastro non solo a me, ma a Walter, a Marco, a un sacco di allenatori, la prima serie era una cosa allucinante, non so perché, ma partivano i finali, un minimo difetto partivano i finali. Poi hanno cambiato il software, perché sai, tutta digitale, è nato l'MK2G, quindi hanno fatto il quadribanda, sai, qualche accorgimento, qualcosa, e non c'è più sentito niente. Io ce l'ho già diversi anni. Va benissimo, ottima radio, anche la macchina, perché l'avevo messa, non c'era la macchina, è grande, l'avevo messa, la fonte estraibile, ottima in tutte le bande, va benissimo. L'unica cosa chiara, la modulazione è molto stridula, molto forte però, la diretta manca molto acuta in AM, però la modulazione è molto stridula, senza tonalità bassa, e quindi sai, a me non piaceva, quindi ne avevo tolta. Perché lo usavo anche in 27, poi facevo qualche passaggio in pure in VU, avevo due antenne, una davanti e una in coda, c'avevo un VU dietro e quella con la 27 davanti. E quindi essendo un quadribanda c'ha due ingressi, quindi uno l'avevo messo come HF l'ingresso e l'altro VU. E guarda, è eccezionale, comoda, frontalino bello illuminato in verde, con i caratteri molto grandi, e quindi si vedeva tutto, con una frequenza, tutto in digitale, frequenza canale, ti memorizzi tutto, a 100 memoria, ma c'è una radio, per carità, però la prima serie non è che andava bene, la seconda serie sì, la prima non era andata molto bene, e come l'altro che c'ho io, sempre del VHF, il monobanda sempre della Icom, il base 271, c'era il 271 e il 471, il 271 l'ho trovato in fiera, sto cercando il 471 per fare linea, non riesco a trovarlo, perché il 271 era più a mano, il 471 aveva sempre problemi e chi ce la se lo tiene, ce la fa brutta figura, capito? E quindi se lo tiene, infatti anziché prendere il secondo avevo preso un bibanda veicolare molto bello, sempre della Ico, fratello Tribe, molto grande, e ce l'ho lo stesso qua. E poi l'avevo preso 7004 a poco, adesso ho già messo in lista per prima di fine anno prendo il mostro della Icom verso 240, verso 240 e prendo per fare spazio, non perché me ne voglio risparmiare, ma per fare spazio altrimenti non mi ci sta, e prendo il 7008, vaffanculo, non me ne frega niente, costa 5.500 euro ma non me ne frega niente. Grazie al consiglio e alla compagnia. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. allora ci sentiamo comunque, metti buon tutto, avanti il tore. La radio anche esteticamente è molto maneggevole, insomma, perché infatti diventava attoriale in macchina un quadro in mandato, c'è le VLU a 100 watt, c'è i 50 mega e 6 metri a 100 watt, c'è le HF a 100 watt, c'è anche il suo accordatore automatico che non costa tra l'altro molto, quindi c'è un remote che lo puoi inserire nel cofano e col pulsante accordi direttamente le varie antenne che usi. No, perché fatti volta amatoriale va bene, ma cazzo, non è che posso mettere un 706 in macchina per fare attività CB, no, li metti un baracchino e ciccia, cosa è sprecato. Però lui che era rimotore giustamente le metteva una radio del genere. Se vuoi fare anche HF in macchina, che lui lo fa, io non lo metterei mai perché farei solo un'antenna unica piccolina, ma che pare lui non mi piace, un'antenna piccolina in coda, e metterei il 2775 della Icon, che è simile al 706, però anziché essere quadribanda è un bibanda, capito? Due bande solo, VU a 100 watt e funziona alla grande, molto bello, uguale così con il doppio display, cioè puoi fare VU oppure da una parte V, dall'altra parte U, però ce l'hai tutte e due sul display, quindi puoi parlare contemporaneamente in due frequenze diverse, va bene, ottima radio anche quello. L'ho parlato una stronzata dentro la scatola, ma l'ho fatta avere Massimiliano Archimede, che l'aveva comprato per fare prove in laboratorio, poi non l'ha più usato, l'ha venduto, me l'ho preso io. L'ho pagato quanto l'ha pagato lui, me l'ha dato a me, la verità. E quindi niente, ed è un'ottima radio anche quella. No, se parliamo di radio grossa è chiaro che devi avere radio grossa. No, io ho un'occasione, ho già telefonato e gli ho già mandato una parte dei soldi. Adesso fatto una maglia, te lo mando giù lo stesso, Claudio, non c'è problema, non è che tieni lì, usalo tu, quando sono pronto io me la mandi, sempre la remoto differenza, è il 7006 della Icom, grandissima radio, enorme, con tutto quello che serve per avere una radio che costa 7000 euro di euro, io pago quasi la metà. Grande, più una del 9,20 come la molto grande, poi ho fatto una scrivania perché pensavo di non prendere più niente, poi ho detto ma una rabbia di ultima generazione me la voglio prendere. E quindi mi aveva detto fai quello che ti piace. Sono entrati dei soldi dal cielo che abbiamo trovato sotto i mattoni qua, e quindi a parlo mazzi che aveva in culo. Ma prendo, batto le prove di mangio e ciccio. E niente. E così mi ha detto, ma poi se vuoi te la mando anche il prossimo mese, ci siamo sentiti l'altro giorno. Ma te la mando, tienila tu, tanto perché io non sono spazio. Ti ho aspettato il fermiano in fisica l'altra scrivania, e poi ti telefono e me la mandi giù. Mi ha detto, lo segno e me lo mando. Anzi, ma te la mando in contrassegno, quindi non c'è neanche problema. Antonio, ti stavo dicendo, cazzo mi sono dimenticato, ma quante ne hai tu? Praticamente uno stilo di antenna di macchina, e tu cosa gli hai inserito come radiali? Allora, la base è della Grand Prix, poi lo stilo centrale è lo stilo della Turbo 2001, senza la base lì sotto, solo lo stilo della Turbo 2001, poi come radiale ci ho messo tre antenne che mi ha dato Mario di macchina, sono tutte e tre antenne nere, sono di quelle vecchie, modello vecchio, mi capito, infatti che mi sono fatto una specie di mini Grand Prix con lo stilo della 50. Allora lo stilo 50 così com'era, senza i radiali avevo 1,5 stazionarie, poi ho messo un radiale, sono scese 1,4, gli ho aggiunto gli altri due radiali e c'è 1,1 perfetto. E pompa, cazzo, pompa è cosa male questa antenna, messa così come in questo nel punto dove l'ho messa adesso. Se la metto sopra il tetto quella, sì, un demonio, Ma senti capo, non ti capisco a te, né posto ne hai, scusa. Visto che non vuoi più mettere la mano, ma per estetica, per cose, fai anche bene, per carità. L'avrei fatto anch'io, l'ho messo un'antenna un po' più piccola, essendo così come se tu in familiare, questo è un palazzo alto, poi tra l'altro si vedono pochissimo, perché sono dall'altra parte, ma quando li ho messi sull'autostrada, cazzo era un casino, valeva una gacema di carabinieri, brutto. Dico, quella è piccolina, cazzo c'era la qualificazione dove c'era la mantova, ti do una mano, un palo ce l'ho, ne ho io pali se ti servono, e si butta su lì, cosa, e sicuramente esce molto meglio perché lì è molto bassa come antenna. Guarda che il problema non è quello lì, tra, il problema è che quando io sono andato via da questa casa e sono sceso giù al centro storico a abitare, mentre ho fatto il capocondomino. E tanto lei ci stacca il palo, perché non è neanche pericoloso. E tu va bene, lo stacco tutti e due. E dopo me lo fai piazzare. E mi ha detto va bene, vediamo. Quando sono rientrato, che mi ha staccato tutto, ha preso e mi ha tagliato anche le gambe. Perché mi ha tagliato dentro le gambe? Cioè perché tu antenna non piazzi più, te lo dico io. Mi ha detto, ah così, mi ha detto. E cioè, se non ti va bene, mi ha detto, dice cambi casa, lo sento che vai in affitto da un'altra parte, mi ha detto capo con noi, non gli guarda, allora facciamo così, gli ha detto. Da un momento opportuno, ho detto, ti dichiaro guerra, gli ha detto, e vedrai che la perdi, perché io c'ho la concessione, c'ho dei diritti ministeriali, in antenna non ha detto dove voglio. E ti faccio anche pagare i danni per avermi tagliato le gambe, perché non sarà neanche per me di tagliare le gambe. Sono in guerra con capo con noi, io quando ho pensato questa garantella qua, l'ho pensata senza chiedere l'ordine a lui, infatti se è venuto a me, ho visto che hai pensato un'antenna nuova, certo ho pensato un'antenna, ho detto, io baracchino ce l'ho detto, lo uso, detto, è ancora niente, gli ho detto, allora ho detto, fortuna, ho detto, ti piazzo su, ho detto, una di quelle antenne, detto, molto più grande di quella che c'era prima, gli ho detto, aspetta, ho detto, lasciami sistemare un po' le cose, e poi ti faccio parlare di Eletto che conosce Antonello. Ma ah, infatti li avrei fatto, a me quando si punta questa gente non va assolutamente bene, io te lo chiedo molto amichevolmente, ti faccio vedere la mia documentazione, tu devi essere in grado di sapere dire bene le cose e di conoscere le leggi, non perché per la tua anche a togliere. Hai fatto benissimo. Vabbè, io vi saluto. Vi auguro buon proseguo di questo show. Grazie della compagnia. Comunque, ditelo ad Antonio, quando vuole che siamo qua, se si può far sentire. Loro sa banda VHF, che è una cosa monotona, non ci va, no, c'era anche l'altro giorno, in due lì, riprende, ritorna, fa e tira, molla, bimbo, va. A me piace parlare un po' di tutto in generale, lì si è sempre limitato, quindi no, non mi va. Se lo sento, entro, lo saluto, no. Lui c'è sempre, anche intra e no, che no. Intra tu, vieni tu da me, dico, io lì non ci faccio niente. Capito? Dico, quando vuoi entrare siamo qua e così ci facciamo due chiacchiere e cerchiamo di capire bene questa situazione. Come ho detto, due settimane qua sono arrivato già dal mese scorso, ho già provato, ho già fatto, perché dietro l'ho fatto intendere, no, che mi direte cosa ne pensi. Una sera che entri presto, mi devo staccare l'antenna che lì c'è attaccata alla AG5RV, che è diretta, e le attacco le commutola mantola e te lo faccio sentire. Così mi dici cosa ne pensi, ma è una modulazione molto, molto diversa da questa, to. Non ha niente a che fare con la M, capite? Una radio nata per fare le HF bene, perché le fa bene, ha una potenza allucinante, i 6 metri e le VHF, è un tribanda molto, molto interessante. Poi c'è un display tipo quello del 70C, ancora più grande, proprio per chi è cieco, mi sa tranquillo, con cui c'è un po' problema. Va benissimo, Otto, va benissimo. Comunque fammi sapere di questo tramvario 706 e se hai bisogno di schema, qualcosa, già c'ho tutto io, tanto sono uguali, Otto. Cambia il software della programmazione della quarta banda e basta. Per il resto è uguale. Io praticamente ho le UHF in più di quello lì. Per il resto è tutto uguale. Quindi fammi sapere se hai bisogno di qualcosa, te le fotocopio, te le do, te le fotocopio, non va problema. Ciao Antonio, ciao Antonio, ciao a chi sta ascoltando, buonanotte a tutti. Io chiudo la radio alle 5:30, se no mi canta il cucù. Buonanotte a tutte e due, vai Tom. Mia moglie non se lo perde quello. Ciao Claudio, ci sentiamo pomeriggio a domani sera. E allora, come andiamo? Sì, anche qui si fa questo adesso. Sto scrivendo parecchio. Sì, allora. Ah, qui c'è avuto problemi tanto. Prima provata lì. Dai, un po'. Ha tagliato le gaffe e se poi le gaffe ci ha messo il verifoglio catalato, capito? Se con la testa sua ha detto che non vuole pensare l'antenna sopra il tetto, se sa cosa fate tu, ha detto che mi chiama i carabinieri, mi ha detto. Allora lo facciamo così, ha detto, dato che non vuole pensare sopra il tetto, tu me l'ha detto l'altra parte, così te la trovo in culo, che quello era parecchio, tra l'altro è mio, e lui è stato zitto. Guarda, problemi, non c'è anche la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, ma non è proprio la scena, la cosa che ho fatto. Tutto io c'era, non so se ha detto, e se parlo di coraggio, e se vai a posto. E non è un altro, e non si va, non è un altro, e non si va, non è un altro. La gente non sa cosa fare, capito? Non sanno come lo fare male la mattina presto quando si alzano, le cose. L'unica cosa, guarda, per poter bombare la baracchina, avere una villetta, che tu hai la tenere che vuoi, è casa tua, e che sia distante dall'altra villetta almeno 200-300 metri, così non ti possono rompere il bar a nessuno. In una zona alta, e puoi pompare quanto vuoi. O solo così, puoi usare la baracchina, perché in tutti i miei, anche con in tutti i condominiali, la stessa prassi sempre, come sempre la baracchina, pur sempre che c'è le 10 appresso. La tua offerta fa niente di male, la gente che ti fa di sera. E come qui una volta, cazzo, c'era un elettricista di fronte che chiamava per gli altri. Bravo. Sì, già capita così, purtroppo. Dove abitavo al centro storico, sono molto piazzato l'antenna, e non abitava nessuno al palazzo. Ho messo il palo, e nessuno mi ha detto niente avvicinato. Figurati tu. Voglio farti cantare fino alla via, ultimo letto, che adesso se non mi va bene, io mi metto tra la porta dell'antenna, rispetto a tutto, la finita a pompare, a pompare, fino alle 4 aprile, e intanto sono un ciao di grado di la cosa è qui. Sì, adesso aspetto un momento opportuno, poi gli mando a letto la boccata con un libro, non è che le faccio addestrare la gomma, lo dico io. Come mi vanno a mettere la boccata, sono 10 giorni di tempo. Dico, io sto strano l'antenna e voi i soldi di tutto quello che mi ha rovinato, mi butto a pagare, paga i danni e a me non me ne frega proprio niente. Solo dico non mi togli con il condominio, vediamo come la mettiamo, lo dico. Ma io ti scomico, e non dico sì, ma aspetta, ma io... sempre continuo, sempre carezza, ma un periodo quando non ci piace faccio proprio di qua e me la merera prima già di andare, non ho avuto problemi di niente, e poi c'è un periodo che effettivamente ma invece lo piace, ma se io non risolvi il problema no, ma era un altro che è più troppo alto, poi c'ho anche non ho avuto. Adesso il governo non riesco più niente, non okay. No, ma io disturbare non disturbo nessuno. L'unica cosa è disturbare il televisore mio che ce l'ho di fronte, hai capito qualche volta. Questi giorni che sta piovendo, ma c'è tempo cattivo, il ventilatore la centrale sta lentite. E quindi non c'è segnale buono, questo cazzo di città, e ti crepo bene. No, io sono un giorno più riparato di quell'amplificatore audio. Eravamo almeno 4-5 anni che non l'ho più fatto l'amplificatore. Quando lavoravo da usai, mi mettevo, smontavo, riparavo, cambiavo i finali, cambiavo le resistenze, quello che era. E il sistema adesso non più. Ma so che tipo una marca deve essere la una marca su disco audio sai esiste. L'ha mai sentita la marca? No, non l'ho mai sentita io. Cioè sembra io. Io sono stato professionale con un po' di qua. Sì, guarda che oramai nella questione di elettronica ci sono vediamo proprio audio telefonico, roba italiana. Se funziona bene che buono, cioè va bene, se no se la bacinese meglio non usarla, perché ti creerà sempre problemi. Grazie a tutti.